Tempo di Sport con Carlo Genta. Palla allontanata, poi Borriello quasi zona tiro e l'arbitro dice che può bastare. Il Milan è campione d'Italia per la stagione 2010-2011, è il 18° scudetto del Milan. Beh, certo, oggi è il giorno delle celebrazioni dello scudetto rossonero. Piaccia ai tifosi milanisti naturalmente o non piaccia magari a tutti gli altri. Giorgio De Luca in redazione, Filippo Aureggio in regia per questo pomeriggio di sport, che però di sport conviene anche stare in cronaca perché di sport ce n'è tantissimo. Abbiamo visto la Formula 1 e tra poco ne parleremo in Turchia, primo gran premio europeo della stagione. Il copione non cambia se non per il fatto che c'è finalmente il primo podio della Ferrari con Alonso terzo, ma dietro all'imprendibile Red Bull vince Vettel davanti a Webber. Terzo appunto Alonso, che però bravissimo a infilarsi davanti a due macchine che sono in questo momento probabilmente più forti della Ferrari, come McLaren e Mercedes. Quarto Hamilton, quinto Rosberg, sesto Button, settimo Heidfeld, poi Petrov, Buemi, Kobayashi. Male, al solito, viene da dire, l'altra Ferrari, quella di Massa. Io però andrei in cronaca, oltre che sul Giro d'Italia, che oggi vivrà la prima volata, che poi pure vi racconteremo, oltre a una finale di Eurolega di basket che ci provoca solo un grande dolore perché Siena non c'è, ci sono Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv. Però andrei in cronaca sui risultati che stanno maturando in questo pomeriggio. Dario Ricci, nostro inviato al telefono. Ciao Dario. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Beh, tantissime novità in questi pochi minuti che hanno preceduto il nostro collegamento. Partiamo da Udine, dove la Lazio ha accorciato le distanze 2-1 per l'Udinese al 30° del secondo tempo. Cross di Zarate, Kozak di destro sotto misura ad insaccare quindi a battere Handanovic. Lazio, che lo ricordiamo, gioca in 11 contro 10 per l'espulsione di Angella in seguito al fallo da rigore su Rocchi, calcio di rigore poi fallito dallo stesso Zarate. Fallito è poco, perché mai ho visto un rigore calciato così male. Andanovic lo ha parato senza neanche fare un millimetro, spostarsi di un millimetro, ha semplicemente alzato le braccia. Zarate gli ha fatto un passaggio, nemmeno di quelli secchi e di quelli difficili da prendere. Udinese che però, guarda, nel primo tempo ha dominato in lungo e in largo questa partita, passando due volte con Di Natale, in entrambi i casi con Sanchez, che ha fatto due grandi giocate, due grandi aperture. Udinese che ha fallito tanti gol, che poteva avere un punteggio più rotondo. Ha segnato anche l'Inter in questo momento ed è 3-1 sulla Fiorentina, giusto? Sì, esattamente, il gol di Coutinho, 3-1, in una splendida punizione tra l'altro dai 30 metri, un destro imparabile per Boruz. In precedenza c'era stato al 25° della ripresa il bel gol di Gelardino, lancio in profondità, controllo al volo e sinistro a insaccare il 2-1. E poi novità anche da Brescia, Carlo, al 29° il Brescia ha fallito di fatto l'1-1 con una conclusione al volo sotto misura di Diamanti di sinistro, fuori di pochissimo. Pochi istanti dopo è arrivato invece il 2-0 del Catania con Bergessio in contropiede in splendido diagonale di sinistro. Quindi si combatte sul fronte salvezza con Bologna e Parma, che sono sullo 0-0, ma lì la pratica è praticamente archiviata per entrambe, pratica salvezza. Il Brescia potrebbe salutare la compagnia, se non matematicamente di fatto già da stasera, perché sta perdendo, come detto, 2-0 in casa con il Catania, gol di Silvestre, preziosissimo difensore centrale, primo gol ed è il sesto stagionale per lui su inserimento nel primo tempo. Perfetto su una punizione calciata dalla tre quarti. Il Cesena sta conquistando una vittoria preziosissima a Cagliari, 1-0, gol di Jimenez al nono della ripresa, inserimento centrale, assist di Budane, gol di Jimenez, che condanna praticamente la Sampdoria a dover vincere il derby di questa sera con il Genoa. Sarà una delle ultime grandi partite, credo, di questo campionato. Il Lecce, altra squadra che gioca per salvarsi, è passata in vantaggio col Napoli 1-0 con il rigore trasformato da Corvia, fallo di Campagnaro su Oliveira dopo 4 minuti della ripresa. Al decimo l'espulsione dello stesso Corvia, doppia ammonizione, fallo da dietro su Lavezzi, e ci stava il secondo giallo naturalmente. Al 22° Mascara segna di testa su cross di Zuniga, dunque siamo sull'1-1 a Lecce. 0-0 detto tra Bologna e Parma, il Catania vince, dunque poi facciamo i conti, però a occhio e croce la Sampdoria ha l'obbligo di vincere questa sera la sua partita, il suo derby contro il Genoa, e non è un bel modo di approcciare questa partita sentitissima. Dunque, di Giro d'Italia parleremo tra poco. Da Dario Ricci torniamo non appena ci saranno novità in questo finale di partite. Andrai da Mario Poltronieri. Ciao Mario. Ciao, ciao Carlo, buonasera a tutti. Contento per il Milan? Beh, insomma, tutto sommato sì. Ti dirò, l'unica cosa però che ho notato è che l'allenatore dell'Edil Nord non è mai contento. No, non è mai contento, anche se insomma ha detto che magari qualche voto questo scudetto lo porta. Quindi questo potrebbe essere collateralmente dal punto di vista collaterale un effetto positivo che potrebbe farlo contento di questo scudetto. Beh, di cui se non altro dimostra che Allegri sopporta di più di Lorenzo di Leonardo. Allegri è un gran furbo, basta guardarlo in faccia. È vero. È riuscito in silenzio a far fuori quella palla al piede di Ronaldinho e poi ha fatto giocare la squadra come voleva lui ed è stato bravissimo, il grande protagonista per me di questo scudetto, ma avremo modo di parlarne. Intanto parliamo di questa gara turca dove le Red Bull sembrano di un altro pianeta in questo mondiale, sembrano astronavi e non macchine da corsa, però c'è Alonso che è stato bravissimo oggi secondo me. Infatti direi che oggi una volta di più ci si è resi conto che del pacchetto dei piloti che corrono in Formula 1 Alonso è comunque uno dei più forti, perché è riuscito veramente a fare perché ha perfino dato la sensazione che ormai i problemi della Ferrari siano risolti. Diciamo la Red Bull va di più, ma nella fase centrale ad esempio Alonso andava coi tempi di Vettel, quindi non vorrei che la Ferrari adesso si illudesse di aver risolto tutti i problemi, perché in realtà il problema che deve risolvere è comunque di riuscire a qualificarsi un po' più avanti per poter consentire ad Alonso di partire subito tenendo il passo dei primi, mentre invece c'è stato sempre un po' questo problema. Può darsi che sia che la Ferrari, o comunque in funzione di come è fatta la Ferrari, forse non ha ancora capito fino in fondo quali sono le caratteristiche delle gomme Pirelli. Sì. Non per niente Tronchetti Provera ha detto: beh, avete visto che noi abbiamo cercato di non favorire la Ferrari. Effettivamente, certo. Diciamo che è su una buona strada. Comunque a me è piaciuto moltissimo Alonso, ma ha avuto abbastanza problemi, però mi pare che non riesca a essere un pilota a livello Ferrari. No, certo. Perché è molto bravo ragazzo. Però Mario, volendo essere un po' cattivi, mentre per inciso vi butto i due flash di cronaca calcistica, raddoppio del Cesena a Cagliari ed espulsione di Cavani a Lecce, quindi Cavani che salterà Napoli-Inter del prossimo weekend. A voler essere un po' cattivi si potrebbe dire che insomma è già passata qualche stagione, no, di Massa alla Ferrari, forse era il caso di capirlo un po' prima nell'assemblare comunque la squadra dei piloti, che non è detto che si debba avere per forza un pilota del livello di Alonso, anche perché non c'è comunque una prima guida bis, si può avere anche una seconda guida dichiarata che non ruba punti ma magari può essere utile e funzionale nello sviluppo della macchina, o sbaglio? No, giustissimo, sai, purtroppo è nato come pupillo della Ferrari agli inizi del 2000, quindi diciamo l'affetto nei confronti del brasiliano, che tra l'altro era gestito dal figlio di Todd, insomma è abbastanza giustificato. Certo, se si guarda ai risultati, effettivamente quest'ultimo periodo non ha reso, e come hai ricordato benissimo tu, non ha contribuito allo sviluppo della macchina. Direi che la squadra più completa dal punto di vista dei piloti non è solo la Red Bull, dove comunque c'è questo antagonismo fortissimo tra Vettel e Webber, ma la McLaren, che però oggi si è trovata su un tracciato che evidentemente non le era favorevole, perché Hamilton e Button vanno benissimo, sono complementari, uno più veloce, uno più regolare. Esatto. E quindi a seconda delle situazioni riescono in ogni modo guadagnare qualcosa. Oggi sono andati male, però peggio di tutto è andato Schumi. Sì. E francamente vedere cosa ha fatto Rosberg, che a un certo punto era addirittura nelle primissime posizioni, comunque è arrivato quinto, diciamo che Schumi veramente è andato sì. male. Cioè, ormai Mario, può essere una valutazione quasi definitiva, no? Questo ritorno di Schumacher è stato un flop molto triste. È tuttora ogni gara si aggiunge un po' di tristezza a un flop abbastanza annunciato. È vero. Beh, comunque di ogni modo, come ti dico, adesso il problema numero uno è vedere la Ferrari quando in Spagna, dove Alonso sarà ancora più gasato, se riuscirà a fare ancora un passetto avanti per riuscire a diventare l'antagonista diretta, si potrebbe dire, della Red Bull e comunque a livello dei migliori McLaren. Sì, appunto la domandona adesso è questa: ma la Ferrari ha raggiunto McLaren e Mercedes oppure è solo un raggio di sole turco? Questa sarà la risposta da cercare nei prossimi Gran Premi, perché la Red Bull mi pare ancora molto lontana. Probabilmente, altra domanda potrebbe essere: la Ferrari raggiungerà probabilmente la Red Bull nel corso di questa stagione, raggiungerà i livelli della Red Bull? Magari però sarà tardi quando accadrà. Penso proprio, perché la Red Bull mi sembra quella dell'anno scorso come vantaggio rispetto agli altri, e Vettel tra l'altro sta andando eccezionalmente bene, d'altra parte è anche il campione del mondo, ma noi l'abbiamo sempre un po' sottovalutato perché è molto giovane, ma non è vero, perché anche Hamilton quando è stato campione del mondo era giovane. Sì. Sta venendo fuori una nuova generazione di piloti, questa è la prima cosa da tenere presente. Tu parlavi nel calcio, anche nel calcio l'anno 21 vedremo delle grandi sostituzioni nelle squadre più importanti. Quindi io credo che qui bisogna considerare che proprio c'è un cambio, che è importante, perché questi continui cambiamenti di regolamento ai vecchi creano dei problemi, ai giovani non li pongono, perché loro arrivano in quel momento lì e si trovano con quel regolamento e si sviluppano su quello. Sicuro. Quindi io trovo che le gare sono sempre, qui c'è stata un'ottantina di pit stop, quindi sorpassi, divertentissima. Riuscirla a seguire con molta attenzione, con tutti i dati che vengono sullo schermo, non è così facile. Certo. Però diciamo che prese episodicamente c'è una successione di spettacolo che corrisponde a quello che è la filosofia attuale della Formula 1, che non è grandissima ricerca, ma è appunto quella di dare spettacolo. Oggi lo spettacolo c'è stato, per giunta più soddisfacente, perché Alonso è stato veramente bravo. Mario, ti ringrazio, alla prossima. Ciao. Un abbraccio a Mario Poltronieri. Dunque io direi che sentiamo le informazioni sul traffico e poi facciamo un bel giro di campi di aggiornamenti completo con Dario Ricci su quanto sta ora accadendo in Serie A, dove mi pare, anzi sono certo, c'è il 2-1 del Lecce sul Napoli, con un tiro che colpisce la traversa, rimbalza in maniera netta all'interno della porta di De Santis, torna in campo, proteste napoletane secondo me ingiustificate, è valido il gol del 2-1 del Lecce, che tra l'altro è molto importante soprattutto per la coda della classifica. C'è Roberto da Milano che scrive: Milan 18 scudetti, 18esimo scudetto vinto sul campo, da godersi fino a metà giugno. E poi qui aggiunge sarcasmo: poi Guido Rossi lo assegnerà d'ufficio ai secondi o terzi in base al piazzamento finale dell'Inter. Che ne dite? 800240024, traffico. Strade in diretta. Lungo l'autostrada Roma-Fiumicino ci sono delle code di circa 2 km a causa di un incidente tra via Newton nello svincolo per la via Magliana Vecchia sulla carreggiata in direzione dell'aeroporto. Lungo la 9 Lainate Como Chiasso, code per operazioni doganali verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e la dogana di Como Brogeda. Sulla statale 18 Tirreni Inferiori, in provincia di Reggio Calabria, code a causa di un senso unico alternato tra Favazzina e Scilla. Circolazione scorrevole in questi minuti sul resto dei percorsi. Ricordiamo però che il Giro d'Italia approda proprio in questi minuti a Parma. L'arrivo è posto in stradone Martiri della Libertà, chiusure e deviazioni per il traffico veicolare nel centro storico. Per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Da oggi le piccole e medie imprese che privilegiano l'aereo per gli spostamenti dei propri collaboratori hanno un'opportunità in più. Alitalia, Air France e KLM hanno ideato Blue Biz, l'accordo di incentivazione che fa accumulare Blue Credits da spendere per l'acquisto dei biglietti successivi. Ogni Blue Credit vale un euro, così è facile sapere quali biglietti si possono ottenere acquistando le tariffe disponibili senza limitazioni di posto. Inoltre, mentre l'azienda accumula Blue Credits, i viaggiatori guadagnano miglia sul proprio conto Mille Miglia o Flying Blue. Con Blue Biz risparmiare sui voli è semplice, basta scegliere Alitalia, Air France o KLM. Maggiori informazioni sui siti delle rispettive compagnie. A tempo di sport. Dunque torniamo e andiamo subito da Dario Ricci per farci fare un quadro della situazione a pochi minuti dalla fine delle partite di questa terz'ultima di Serie A che ha incoronato ieri sera il Milan. Dario? Sì, partiamo subito dalla novità che stavi già anticipando tu poco prima della viabilità. Lecce in vantaggio per 2-1 sul Napoli, il gol splendido di Cevanton con una botta di sinistro dai 18 metri, palla che rimbalza sotto la traversa e bravissimo Valeri con l'aiuto chiaramente del il guardaline a individuare il gol malgrado le proteste poi dei napoletani De Sanctis su tutti, da sottolineare nella protestavano perché dicevano che non era entrata sì esattamente invece veramente è un colpo di classe quello di Valeri e del suo collaboratore di linea, perché il pallone era tra l'altro violentissimo e da sottolineare nell'azione anche il tocco di Di Michele, il tocco di tacco che ha liberato Cevanton per la conclusione sempre dallo stesso campo. Ricordavamo l'espulsione di Cavani per un fallo su Olivera, giusta l'ammonizione, quindi per somma di ammonizioni il bomber uruguaggio è stato espulso. Poi altro campo caldissimo, quello di Udine, dove l'Udinese è sempre in vantaggio 2-1 per la Lazio quando siamo ora entrati nel 49esimo di gioco, solo due minuti ancora alla fine, Lazio vicinissima più volte al pareggio, al 36esimo palo di testa colpito da Kozak, poi al 37esimo ancora di testa Dias, splendida respinta di Andanovic, al 47esimo pochi istanti fa la deviazione di Rocchi sotto misura, fuori di pochissimo. Intanto arriva il gol della bandiera con cui probabilmente il Brescia saluta la Serie A, a siglarlo Diamanti, 2-1 per il Catania a Brescia. Carlo, e poi da raccontare anche la rete di Malonga a Cagliari, il 2-0 del Cesena, c'è stato un cross rasoterra dalla sinistra di Giaccherini, Malonga è spuntato alle spalle dei difensori del Cagliari ma in posizione perfettamente regolare e ha battuto facilmente Agazzi. Quindi Bologna-Parma sempre 0-0, giusto? Sì, Bologna-Parma ancora ferma sullo 0-0, a questo punto quasi definitivo. L'Inter? L'Inter in vantaggio sempre per 3-1 sulla Fiorentina, poi dei risultati che non abbiamo detto, no, li abbiamo in realtà detti tutti. E diventa veramente fondamentale a questo punto il derby di Genova per la Sampdoria. Certo, diventa fondamentale il derby di Genova per la Sampdoria, ma soprattutto se van così le cose la Sampdoria si avvicina allo stadio per giocare questo derby nelle peggiori condizioni possibili, perché sarebbe terz'ultima da sola a questo punto se i risultati si confermano così. Tu stai lì, Dario, per i finali naturalmente, e andrei invece a fare un salto al Giro d'Italia. Ciao Piero Augusto Stagi. Ciao Carlo. Qual è la situazione invece dalle tue parti? La situazione calda, un po' per la temperatura, un po' perché siamo nelle fasi conclusive della corsa, siamo a meno di 10 km dal traguardo, 6 secondi di vantaggio per un gruppetto di 10 corridori trascinati da Leonardo Giordani, che ha approfittato della questa tappa ha vissuto su due scatti. Primo dopo un chilometro di Sebastian Lang, che poi si è sciroppato 210 km di fuga solitaria, è arrivato ad avere 19 minuti e 36 secondi di vantaggio massimo. Appena è stato ripreso, proprio questione di pochi secondi, e Leonardo Giordani ha portato fuori una fuga di appunto 10 compagni di fuga che adesso stanno cercando di non farsi riprendere, di montare dal gruppo che però sta procedendo ad ampia velocità. C'è il treno della Garmin che sta pilotando Teller Farrar e Alessandro Petacchi e Mark Cavendish alle loro spalle, pronti per lanciare logicamente questa volata, una quindi tappa piattissima, avventurieri di giornata, cavalieri di giornata che poi verranno mangiati dallo squalo, dal gruppo, e in linea di massima sarà duello Cavendish-Petacchi, con Cavendish che potrebbe pigliarsi anche la rosa. È così. Cavendish ha la grandissima occasione di prendersi la rosa, quindi l'HTC potrebbe festeggiare il secondo giorno di maglia rosa, perché ricordiamo Marco Pinotti, bergamasco italianissimo, campione italiano della crono, corre per questo team statunitense. Petacchi farà di tutto per guastare la festa, ancora di più il terzo incomodo, che è molto qualificato ed è molto quotato, che è Tyler Farrar. Perfetto, quanto hai detto che manca la conclusione? In questo momento 8 km e 700 metri. Fantastico, allora dopo il giornale radio vi raccontiamo l'arrivo in diretta con Pier Augusto Stagi, e poi l'appuntamento con il Giro d'Italia per parlarne in maniera più approfondita sarà, ve lo do subito, sarà alle 18.45. Nel frattempo, prima di tornare ai temi calcistici che ci accompagneranno nelle prossime due ore, 800 24 00 24 per far sentire la vostra voce, o se volete scrivere messaggi 349 238 6666. Altra digressione però, è dal Giro d'Italia da Parma andiamo a Barcellona, dove Siena ha stravinto con il Real Madrid una finalina che è, secondo me, il trionfo della tristezza. Io sono apertamente, dichiaratamente contrario ad ogni tipo di finale per il terzo posto, che non ha alcun significato se non ovviamente alle Olimpiadi. Siena ha vinto questa finalina, però adesso si gioca per il titolo europeo dei canestri. Tra Panathinaikos strafavorito e Maccabi Tel Aviv. Come sta andando, Nicola Accardo? Sì, buonasera Carlo, qua manca un minuto alla fine del primo quarto, c'è un time out in corso, il punteggio è di 22 a 15 per il Panathinaikos. Come previsto, i verdi stanno dominando soprattutto sotto canestro e con i suoi due playmaker eccezionali, Kalates e Diamantidis. Il Maccabi è riuscito a stare sotto grazie alle triple di soprattutto di Aiton, ma la partita la stanno decidendo sotto canestro i vari Jokic e Fortis. Non mi sorprende, grazie a Nicola Accardo, con cui torneremo a collegarci, speriamo con esiti migliori, però sapete anche voi, insomma, l'audio nei palazzetti è quello che è. Comunque facilmente prevedibile il dominio del Panathinaikos nei pressi del canestro contro Maccabi Tel Aviv, che al miglior contropiede d'Europa, ma altre caratteristiche fisiche, diciamo così. Ultimo giro da Dario Ricci. Che partita è finita? Quali risultati sono finali? Credo quasi tutti, no? Tutti finali, Carlo, quindi è matematica la retrocessione del Brescia in Serie B, Catania che vince per 2-1 con le reti di Silvestri al 27esimo del primo tempo, poi il raddoppio al 30esimo del secondo tempo di Bergesio e poi la rete della bandiera che vi abbiamo raccontato in diretta, quella di Diamanti al 46esimo, poi 0-0 tra Bologna e Parma, Cesena che vince 2-0 a Cagliari con le reti nel secondo tempo al nono di Jimenez, al 39esimo di Malanga, Inter-Fiorentina 3-1 per i nerazzurri, nerazzurri in vantaggio al 25esimo del primo tempo con Pazzini, al 28esimo sempre del primo tempo il raddoppio di Cambiasso, al 29esimo della ripresa la rete di Gilardino per la Fiorentina, poi la punizione gol al 32esimo sempre del secondo tempo di Coutinho. La vittoria del Lecce sul Napoli per 2-1 e qui da segnalare al 50esimo l'occasione per il Napoli di pareggiare, il cross dalla destra, colpo di testa di Mascara fuori di pochissimo, Lecce che quindi vince per 2-1 grazie al gol di Corvia al quarto della ripresa su calcio di rigore, Corvia che poi verrà espulso per somma di ammonizioni, il pareggio di Mascara al 22esimo del secondo tempo, al 29esimo l'espulsione sempre per somma di ammonizioni di Cavani, al 43esimo del secondo tempo la rete di Cevanton, pallone calciato di sinistro che rimbalza sotto la traversa ma ben oltre la linea di porta, e poi 2-1 anche dell'Udinese sulla Lazio, doppietta di Di Natale al 35esimo, al 42esimo del primo tempo, poi la Lazio che ha l'opportunità nella ripresa su calcio di rigore di accorciare le distanze, fallo di Angella su Rocchi, il difensore e Zárate che fa quella schifezza, sì, su rigore, il gol di Kozak del 2-1. Dario, ti interrompo perché è il tempo del giornale radio, ti ringrazio, ti do appuntamento a più tardi dopo giornale radio, classifica con l'Udinese che adesso è quarta, con il Brescia che è matematicamente retrocesso, la Sampdoria che ha le spalle al muro E poi magari cominciamo a parlare un po' insieme di questo scudetto. Che ne dite? 800 24 00 24, numero verde, a dopo. A tempo di sport. Credo che ce lo meritiamo perché abbiamo fortemente voluto restare protagonisti e ci siamo riusciti, e si sa che non è facile, che anche facendo molti sforzi e investendo massicciamente non è così sicuro di poter arrivare a vincere, e questa volta ce l'abbiamo fatta, una buona stagione. Intanto... e siamo ancora in corsa per la Coppa Italia. Voci da scudetto, oggi non potevamo che farvi sentire il presidente del Consiglio del Milan e di molte altre cose. 800 24 00 24 per parlarne, ma intanto vi sto per dare una grande notizia che arriva dal Giro d'Italia, cioè dalla Piragusto Stagi, tra un attimo. Io vi leggo la classifica al volo, che è questa: Milan 78, campione d'Italia, Inter 72, Napoli 68 dopo la sconfitta di oggi, l'Udinese che... ed è una delle notizie di giornata, battendo la Lazio 2-1 con pieno merito, secondo me, visto un eccellente primo tempo dei bianconeri, torna da sola al quarto posto, quindi in zona Champions League. La Lazio ne esce da questa zona Champions League dopo tanto tempo e si trova a 60 al pari della Roma, e la Juventus ha la grande chance di tornare, battendo domani sera il Chievo nell'ultimo atto di questa giornata molto spalmata. Battendo il Chievo, la Juventus può saltare di nuovo su questo treno, salendo dagli attuali 56 a quota 59, ma qui stiamo parlando di fattori ipotetici. Palermo 53, Fiorentina 49, Genoa 45, Cagliari 44, Catania 43, Chievo 42 insieme al Parma, Bologna 41, e qui fin qui stiamo totalmente tranquilli, io direi. Cesena 40, passo importantissimo oggi, quello dei bianconeri con il 2-0 di Cagliari. Il Lecce si è portato invece fuori dalla zona rossa attualmente, battendo 2-1 il Napoli, e c'è in pieno invece in zona di retrocessione ora la Sampdoria, 36 punti, che come dicevo prima si avvicina a Marassi nella peggiore delle condizioni possibili, cioè con le spalle al muro, deve per forza vincere questo derby per tornare fuori dalla zona di retrocessione. Brescia 31, retrocesso da questa sera dopo la sconfitta interna con il Catania 2-1, Bari retrocesso già da qualche partita, 21 punti. Dunque, adesso Pier Augusto Stagi ci dice chi ha vinto con un grande colpo di classe, da vecchio campionissimo della volata, chi ha vinto la prima tappina del Giro d'Italia. Ma incomincerei in realtà con una domanda: può una maglia rosa essere un premio di consolazione? La risposta è sì. La maglia rosa non è più Marco Pinotti, è Mark Cavendish, che quest'oggi a Parma perde la prima volata del Giro d'Italia, perde e addirittura ha anche una brutta crisi di nervi, in scena proteste assolutamente ingiustificabili. Davanti a lui, credo uno dei più grandi velocisti della storia del ciclismo, sicuramente uno dei più grandi velocisti della storia del ciclismo italiano, assieme a Mario Cipollini, che è Alessandro Petacchi, a 37 anni, uno dei più vecchi del gruppo, riesce a battere quello che è considerato da tutti il corridore più veloce del mondo, Mark Cavendish, che ha la bellezza di 12 anni in meno del velocista spezzino. Bene, oggi con una volata di grandissima astuzia, anticipando Cavendish, cercando di fare una volata proprio di velocità, quindi non consentendo a Mark Cavendish, che invece è uno scattista e che cerca sempre di arrivare ai 250 metri non a velocità elevate per poi bruciarti con uno scatto, con l'agilità di cui lui dispone. Bene, invece la Lampre ha fatto un lavoro eccezionale, soprattutto Danilo Ondo, compagno in squadra di Alessandro Petacchi, che ha portato da 450 metri ai 250 Petacchi in maniera eccezionale, e sì, poi ci ha pensato lui con una progressione lunghissima di nervi, di voglia, di grande tenacia, che ha fatto saltare proprio i nervi a Mark Cavendish, ha protestato, ha cercato in qualche modo di così richiamare le attenzioni dei giudici, che hanno rivisto proprio in questo momento sì, il filmato della volata, e hanno confermato la vittoria netta e pulita da parte di Petacchi, che coglie con quella di oggi la sua 22esima vittoria al Giro d'Italia. Ricordiamo che Petacchi è uno dei pochi corridori . È uno dei pochi corridori ad aver vinto in tutti i tre grandi giri, ed è tra i 5 corridori ad aver vinto di più nella storia del ciclismo. Storia del ciclismo che ricordiamo: 525 vittorie da parte di Eddy Merckx, poi Francesco Moser con 280. Bene, Alessandro Petacchi con le sue 178 e al quinto posto tra i vittoriosi in top 5 e il tassametro corre, mio caro Piero Augusto. Sono particolarmente contento insieme a te della vittoria di Petacchi in questa volata in cui partiva da sfavorito, perché sappiamo che Cavendish in questo momento è accreditato come miglior velocista al mondo. Grazie per Augusto Stagi, che ritroveremo nell'ultima parte del nostro programma, quindi alle 18.45. Antonio della provincia di Caserta e Riccardo da Genova sono già in linea, sono i primi ascoltatori di questo pomeriggio che vorrei massicciamente invaso dagli ascoltatori. 800240024, anche perché il momento è propizio, no? Abbiamo diverse cose di cui parlare, magari anche di queste. Stefano che scrive da Roma: Lotito dovrebbe mandare la task force a controllare i suoi difensori. Ha ragione Stefano, perché oggi Garrido ad esempio ha fatto una partita da coprirsi gli occhi, soprattutto nel primo tempo. Difesa della Lazio è stata massacrata nel primo tempo da Udinese, fin troppo generosa, perché ci sono stati, è vero, i due gol di Natale, che però se ne è divorati almeno un altro paio, costruiti tutti da un prossimo giocatore dell'Inter, cioè Alexis Sanchez, che lì finirà, vedrete. Dunque, vi riepilogo anche i risultati, così abbiamo un quadro completo con il 2-1 del Palermo di ieri, lo 0-0 di Roma che ha consegnato lo scudetto al Milan. Oggi pomeriggio 0-0 tra Bologna e Parma nel derby emiliano, il Brescia che si scava la fossa perdendo 2-1 in casa col Catania, il Cesena che va a vincere con Gimenez e Malonga a Cagliari 2-0, l'Inter che batte con i gol di Pazzini, Cambiasse e Coutinho la Fiorentina, a segno con Girardino 3-1 il finale, il Lecce che gioca una grande partita con il Napoli e riesce a vincerla, rigore di Corvia, pareggio di Mascara, gol di Cevanton molto discusso, a torto dai napoletani, perché quel pallone era entrato e si diceva prima bravissimo Valeri e bravissima la terna arbitrale a cogliere questo episodio, con la palla violenta calciata da Cevanton che è rimbalzata sulla faccia inferiore della traversa, è finita oltre la linea, è rimbalzata fuori, ma quello era un gol sacrosanto ed è stato giustamente concesso. E appunto l'Udinese che batte 2-1 la Lazio, doppietti di Natale, gol di Kozak nel finale a rigore. Ascoltatore domanda Lumi: ho sentito che Zarat ha sbagliato clamorosamente un calcio di rigore, ho capito bene? Benissimo, ha capito, caro ascoltatore. Clamorosamente è dir poco, perché forse non ho mai visto un rigore calciato così male, o ne ho visti pochissimi, insomma. Andanovic lo ha parato semplicemente alzando le braccia, senza nemmeno muoversi di un millimetro, ve lo assicuro. Traffico, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800240024, Antonio e Riccardo sono i primi. Strade in diretta. Lungo la Roma Fiumicino ci sono delle code per un incidente tra via Newton e lo svincolo per la via Maiana Vecchia sulla carreggiata in direzione dell'aeroporto. Si intensifica il traffico in questi minuti sulla rete autostradale, rallentamenti in Liguria in direzione Genova, sulla 12 tra Rapallo e Recco e sulla 10 al bivio per la 26 dei trafori in direzione Gravellona. Code per il traffico intenso sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole tra Calenzano e Barberino verso Bologna e ci sono code per il traffico anche sulla 14 Adriatica tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Sulla statale 1 Aurelia si rallenta tra Cecina Nord e l'innesto per la 12 Genova Rosignano verso quest'ultima. Infine sulla 9 Lainate e Como Chiazzo ci sono incolonnamenti verso la Svizzera tra Como Montelimpino e la dogana di Como Brogeda. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Già che siamo sulle voci da scudetto, Galliani. Gli scudetti sono tutti belli, quindi l'ultimo è chiaro, quello che hai più negli occhi, più nel cuore. Fantastico, fantastico, fantastico. Credo che l'abbiamo strameritato e quindi bene, siamo partiti in luglio con l'idea dello scudetto e ce l'abbiamo fatta. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Segue i nostri grandi allenatori che hanno vinto sempre al primo colpo, è stato bravo, ha gestito benissimo la squadra. Siamo molto molto molto molto felici, lo scudetto rimane a Milano ma finalmente è cambiato di sponda. Antonio, provincia di Caserta, buonasera. Ciao. Ciao. Io sono un tifoso milanista, naturalmente sono molto soddisfatto della vittoria ottenuta in campionato, che peraltro avevo abbastanza dato per scontato quando sentì l'acquisto di Ibrahimovic, visto che è un giocatore così atipico, così fondamentale in campionato, così inutile in Champions. Sì, così fondamentale in campionato, così inutile in Champions, sì. Fondamentale in campionato, ieri abbiamo fatto un po' di conti, no? Ma li sappiamo, sono storia nota. 8 feste scudetto per Ibrahimovic negli ultimi 8 anni consecutivi, poi ci sono state feste scudetto chiacchierate, come ben sappiamo. Vabbè. Però lui ha festeggiato 8 volte negli ultimi 8 anni, 9 negli ultimi 10 anni. L'ultimo scudetto lo ha perso vado a memoria del 2003 con la maglia dell'Ajax dopo aver vinto quello del 2002, quindi annus horribilis di Ibrahimovic in campionato, solo il 2003 nell'ultimo decennio, pazzesco. Qual è stato, Antonio, il momento determinante di questo scudetto? Poi ti dico la mia. Sì, ma secondo me il derby, il 3-0 nel derby, secondo me lì abbiamo proprio messo veramente un'ipoteca importante, perché poi il Napoli sinceramente non l'ho mai tenuto tanto in considerazione, visto che come rosa secondo me non è che era competitiva per competere fino alla fine. Ora però voglio dirti una cosa, c'è da vestire la squadra per la Champions, che diciamo, quando sento parlare Galliani, faremo grandi investimenti, oltre il dottor Berlusconi, faremo grandi investimenti, questo e quell'altro, mi viene un po' da ridere, perché noi siamo il Milan, secondo me è scontato che dobbiamo essere sempre competitivi. Insomma, fino all'arrivo di Ibrahimovic non sembrava proprio così, no? Arrivavano Yepes a parametro zero, Boateng in prestito dal Genoa o in comproprietà dal Genoa, Boateng che penso sia in questo momento uno dei giocatori in cima alla lista per rafforzare il Milan, trattenere Boateng, credo che la mossa verrà fatta, insomma. Intanto, tra i mille appuntamenti sportivi di questo pomeriggio, c'è anche il big match del campionato inglese con Sir Carletto Ancelotti che è sotto 1-0 sul campo storico, l'Old Trafford, del Manchester United. Il gol è di Hernandez, a proposito di giovani grandi giocatori che il Manchester continua a comprare. Riccardo da Genova, buonasera. Buonasera. Dica. Ciao, io sono tifoso genuano, sono appena arrivato, ma residente a Milano, appena arrivato a Genova e tra poco mi dirigo allo stadio per godermi questo derby, perché insomma, come hai detto bene tu, insomma, abbiamo un'occasione storica, nel senso, riuscire a vincere un derby che è sempre una grande gioia e poi festeggiare probabilmente anche una retrocessione che, direi, se noi oggi dovessimo vincere, secondo me diventa molto probabile, visto anche un po' il calendario. Insomma, li vuoi mandare in Serie B? Assolutamente, cioè guarda, qui è proprio una cosa che io non so, non so se hai seguito la polemica, la frase del sindaco di Genova di questa settimana, parlava di derby della solidarietà, assolutamente non può esistere, ma dal punto di vista esclusivamente sportivo e calcistico, ma il calcio è questo, il calcio è Palio di Siena, insomma, tanto che uno dei ragionamenti molto contorti che sono rimbalzati negli ultimi tempi vuole i tifosi rossoneri che preferirebbero evitare una finale di Coppa Italia contro l'Inter, perché a quel punto non sarebbe molto piacevole perdere magari un derby finale con l'Inter che alza l'ultimo trofeo della stagione nell'anno in cui si è tornato a vincere lo scudetto. Sono un po' perversioni, però ci possono anche stare nel calcio. Riccardo, che dici? Ma io ci possono stare, però ti dico, io da oggi mi sarebbe bello, d'altronde noi abbiamo battuto il Brescia, il Lecce, e mi pare giusto che oggi può riuscire a battere anche la Sampdoria, cioè nel senso, così nessuno si potrebbe lamentare per la nostra correttezza calcistica. No, non metterla giù troppo sportiva, perché così mi piace di meno, Riccardo, mi piaceva di più prima, giusto che i tifosi del Genoa vogliano provare a condannare l'altra squadra, l'altra sponda del fiume genovese, insomma. È giusto così, tanto che la Sampdoria, insomma, si presenta a questo derby nelle peggiori condizioni, lo dicevo prima, con le spalle al muro. È un piacere per me ritrovare e salutare Alberto Ciarruti, prima firma del calcio sulla Gazzetta dello Sport, il nostro amico. Ciao Alberto, ben trovato e bentornato. Ciao, buon pomeriggio, ciao. Buona domenica a tutti, soprattutto quelli del Milan. Sì, stiamo parlando di perversioni da tifosi, del tutto legittime però, secondo me. Ma è diretto. Normale che i tifosi del Milan sperino di non incontrare l'Inter, ma non per paura, perché l'Inter mancherebbe l'unico obiettivo che può ancora raggiungere in questo finale di stagione, e sarebbe anche più facile battere in finale la Roma. Sì, no, ma non c'è dubbio Alberto. Senti, qual è stato secondo te il momento chiave di questo scudetto rossonero? Poi voglio chiederlo anche agli ascoltatori, 800 24 00 24, qual è stato? Il momento chiave è stato il derby, perché tutti pensavano che l'Inter potesse fare il sorpasso, e invece il Milan non soltanto ha vinto distanziando l'Inter, ma ha dato una dimostrazione di forza tecnica e fisica, e da quel momento lì tutti hanno capito che soltanto il Milan poteva buttare via uno scudetto che aveva già prenotato. Sì. La mia idea è che ci siano alcuni momenti. Il primo è stato quello dell'arrivo di Ibrahimovic, che è l'uomo che ha cambiato il vento, no? che ha convinto il Milan che poteva essere una stagione diversa da quella che si era pensata in estate. Quindi l'arrivo di Ibrahimovic, la partenza poi di Ronaldinho, orchestrata forse da Allegri, ma giustamente, perché era una discreta palla al piede del Milan, secondo me, Ronaldinho. Poi c'è stato il Milan di Ibrahimovic, il Milan ibradipendente, ne abbiamo parlato tante volte. E poi, altro momento, altro passaggio determinante, secondo me, Alberto, chiedo un tuo parere, è stato quello in cui il Milan si è affrancato dalla dipendenza di Ibrahimovic, quando a febbraio Ibra si è spento, e allora il Milan ha saputo cambiare pelle e diventare una squadra che prende 6 gol in tutto il girone di ritorno. Sì, sono d'accordo. Io all'inizio del campionato ero convinto che il Milan potesse essere l'unica squadra in grado di infastidire l'Inter, quindi partendo alla pari. Quando è arrivato Ibrahimovic ho cambiato idea, ho pensato che il Milan diventasse la squadra favorita. Il Milan tra l'altro era partito con il 4-0 con Lecce senza Ibrahimovic, il giorno dopo l'Inter ha partito a Bologna e quindi il Milan già era in vantaggio con 2 punti. L'arrivo di Ibrahimovic è stato determinante nella prima parte della stagione. Lui dei 14 gol segnati ne ha fatti 10 nel girone d'andata, sì. Quindi lui ha tirato la volata per i compagni. Al contrario di quello che è successo nell'Inter, non è stato l'uomo decisivo, perché sono stati tutti decisivi. Sì. E ripeto quello che dicevo prima, la svolta secondo me è stato il derby, perché il Milan ha vinto il derby senza Ibrahimovic. Io credo che nessun tifoso milanista potesse pensare che il Milan vincesse 3-0 senza Ibrahimovic. E quindi questa è stata la forza della squadra, la forza di Allegri, che per la prima volta ha trasformato Ibrahimovic in un grande giocatore, in un valore aggiunto, ma non nel giocatore attorno al quale c'era la squadra, perché appunto, la squadra appunto. È andata avanti senza appunto. Ibrahimovic, appunto. Quindi io dico che è un Milan dipendente da Allegri, non dipendente sì, da bravissimo. Ibrahimovic. No, ma infatti quello che stavano dicendo, no? Il Milan si dice, siamo tutti d'accordo sul fatto che ci sia molto Allegri in questo scudetto del Milan, ma il grande merito di Allegri sta nell'aver affrancato il Milan da una dipendenza di Ibrahimovic, certo, che nella prima parte della stagione c'era. E lo ha fatto con le armi che aveva. Ad esempio, fondamentale è stato l'arrivo di Van Bommel, che ha tamponato i problemi di un centrocampo che si stava un po' sgretolando anche per problemi fisici, che da giocatore di grande esperienza ha preso in mano quel centrocampo, e ha un centrocampo in grado di proteggere una difesa che, ripeto, non so se sia record, 6 gol subiti fin qui in tutto il girone di ritorno, però se non è record è comunque qualcosa di grande questo... sono qualcosa di grande questi numeri che il Milan sta scrivendo. Senti, ma Ibrahimovic, facevo prima i conti, 8 feste scudetto negli ultimi 8 anni, lasciando stare quelle che poi sono state cancellate, no? Può essere un caso, no? Non è un caso assolutamente, perché è un grandissimo giocatore, soprattutto in Italia, con una dimostrazione di forza fisica e tecnica. Ibrahimovic ha sempre fatto la differenza. La cosa nuova quest'anno è che Ibrahimovic, lo vediamo sulle pagelle di tutti i giornali di oggi, non ha il voto più alto. Dove Inter ha vinto lo scudetto con Mancini e con Mourinho, quindi con 2 allenatori diversi, lui è sempre stato il numero uno, cioè il simbolo della squadra. Ha segnato i 2 gol decisivi nell'ultima partita a Parma 3 anni fa. Invece il Milan è arrivato al traguardo senza i gol di Ibrahimovic, è arrivato con 1-0-0. Secondo me la partita di ieri è proprio il simbolo di questo Milan che ha basato la sua forza sulla difesa, perché non ha avuto neanche bisogno di avere il gol scudetto. L'ultimo gol l'ha segnato Flamini domenica scorsa, il quale Flamini ieri stava benissimo ma è andato in tribuna. Quindi questo fa capire qual è anche la forza dell'organico del Milan. Senti, e a proposito di pagelle, oggi è il giorno dei pagelloni, voi della Gazzetta date il voto migliore proprio a un difensore, cioè Thiago Silva, che è vero, ha fatto una stagione pazzesca, però secondo me il vero valore assoluto di Thiago Silva lo scopriremo il giorno in cui Nesta deciderà di salutare tutti e fare dell'altro che non sia giocare a calcio, perché Nesta è il giocatore classico giocatore che migliora il rendimento dei compagni di reparto. Sì, sono d'accordo, però devo dire che quest'anno, al contrario di quello che è successo l'anno scorso, quando l'assenza di Nesta aveva fatto calare tutto il reparto, anche Thiago Silva, quest'anno senza Nesta Thiago Silva ha giocato benissimo al fianco di Yepes. Lui ha giocato più partite di Nesta è il giocatore che ha più minuti nel Milan dopo Abbiati. Quindi io gli ho dato il voto 9 come simbolo della regolarità, della continuità di un giocatore che è migliorato molto, ha giocato anche a centrocampo e sono convinto che, come per Pato, Thiago Silva possa ancora migliorare, sì, e diventare sicuro, ancora più forte nei prossimi, sicuro, anni. Sono poi un altro paio di giocatori che sono un po' soldati di questo scudetto, non sono generali, operai, non architetti, però fondamentali. Uno è Abbiati, che io ricordo nel 99 festeggiare arrampicato sul filo spinato con le mani sanguinanti lo scudetto di Zaccheroni, no, a Perugia, e che ha avuto una carriera, se vogliamo, anche un po' contorta, no? per un ottimo portiere. Non è un fuoriclasse, ma è un portiere da grande squadra, secondo me Abbiati, che ha trovato una stagione meravigliosa. Si è preso definitivamente la porta del Milan e ha giocato una stagione meravigliosa. Un altro giocatore che ho trovato molto importante è stato Abate, che quando Leonardo l'ha provato la prima volta da terzino, dicevano: tu sei matto, questo è un attaccante, siamo già una squadra sbilanciata. Ecco, una squadra molto più equilibrata, Abate ha dato molto al Milan. Sì, ha dato molto e cresciuto molto, è stato un uomo importante, però io penso che Abate non sia ancora di livello internazionale e in quel ruolo il Milan abbia bisogno di un giocatore più completo. Va bene nel campionato italiano, mentre Abbiati è un giocatore di livello internazionale. Secondo me lui ha due difetti: uno, che è italiano, non è un brasiliano, e due, che non è un personaggio, parla poco, è schivo, però è un grande portiere, ha vinto lo scudetto nel 99, ma io ricordo quando è andato alla Juventus per sostituire Buffon, giocò benissimo, e quindi non è colpa sua se non è emerso in questi anni, è colpa qui un po' della società e degli allenatori che non hanno avuto tanta fiducia in lui proprio per il suo carattere un po' introverso, un po' schivo. Ma io penso che Abbiati, se guardiamo la sua carriera, la sua continuità di rendimento, sia stato superiore a Dida. Sì, che ha avuto un paio di stagioni di picchi assoluti e poi il Milano ha dovuto pagare le tasse per molto tempo. Però conta la continuità di rendimento, sicuro, dei grandi giocatori. Sicuro. Ti chiedo ancora questo, caro Alberto: di cosa ha bisogno il Milan adesso? Perché io, ad esempio, ascoltatori che scrivono: sì, il Milan deve rinforzarsi alla grande per la prossima Champions, non serve Ronaldo ma un Fabregas o un Lampard, scrive ad esempio un ascoltatore. Cosa manca al Milan per tornare ad essere una squadra top level in Europa? Guarda, prima di tutto il Milan deve capire che questo scudetto è importante, ma non è un punto di arrivo, è un punto di partenza e occorre lavorare molto. Mi sono piaciute le parole di Allegri ieri sera, io ero a Roma in sala stampa. Lui ha detto: dobbiamo ricominciare da capo, dimenticare questo scudetto perché a luglio non vale più, dobbiamo guardare avanti. Ecco, non pensare di essere la squadra più forte del campionato. Quindi questo è il primo passo a livello mentale. Sì. A livello tecnico ci vuole un grande terzino sinistro, perché Zambrotta ha fatto gli straordinari, sicuro, ma non può durare a lungo, un paio di centrocampisti, perché comunque Gattuso stagione straordinaria, Ambrosini stagione straordinaria, però non sono eterni nemmeno loro, e poi un attaccante che possa fare la riserva senza offendersi e che però sia pronto a entrare, perché il Milan ha bisogno di avere una quarta punta vera. Io non credo in Cassano, e siccome Ibrahimovic non può giocare tutte le partite come nessuno, certo, Pato spesso infortunato, ci vogliono dei ricambi. Non si può pensare di andare a giocare, ripeto, in campo internazionale, perché questo è l'obiettivo del Milan, con Robinho e Cassano come attaccanti. Perfetto, grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi, buona domenica. Un abbraccio Alberto Cerruti, non so se siete d'accordo con quanto ha detto. 800240024, subito dopo questa pausa torniamo a parlarne, un sacco di messaggi, come ad esempio questo, l'ultimo di Luca D'Areccione: per il futuro il Milan non deve cadere ancora nell'errore della riconoscenza, no a todos caballeros, no ai rinnovi dei 35 anni. Come sappiamo, molti sono in scadenza di contratto, per molti, per alcuni quantomeno, sarà stato l'ultimo saluto, l'ultimo giro di valzer, di pista vincente, l'ultimo trionfo. Altri invece rimarranno, ad esempio io penso che Gattuso potrebbe essere uno dei senatori in partenza, perché ha ricevuto un'offerta di quelle cui non si può dire di no, come sapete, dai russi, quindi potrebbe esserci questa uscita. Credo che Pirlo finirà la Juventus, credo che ad esempio Seedorf e Ambrosini rimarranno al Milan ancora. Ne parliamo dopo. Ciao Laura, quanto tempo! Abiti sempre a Bologna? Come domicilio fiscale o residenza anagrafica? Come tuo figlio più grande è all'università, giusto? Sì, detratto. Eh? Detraggo l'affitto che paga. Ah, giusto. E tuo marito come sta? Il coniuge? A carico. Se la dichiarazione dei redditi è il tuo solo pensiero, fai due chiacchiere con noi. Al CAF CISL risparmi tempo e ritrovi serenità. Info all'800249307 o su cafcisl.it. CAF CISL. Risolviamo insieme. Con la nuova Xerox Color Cube 8570 in ufficio sono solo complimenti. Che stampe a colori eccezionali, anche su carta riciclata. Che belle scarpe, visto? E con Xerox Color Cube 8570 hai anche 200 euro di rimborso. Vai su xerox.it/promo. Come si legge la nuova bolletta dell'energia? Qual è l'offerta più adatta alle mie esigenze? Domani, sul Sole 24 Ore, una guida pratica con tutti i chiarimenti degli esperti. Dal bonus per le famiglie in difficoltà alla possibilità di rateizzare gli importi troppo alti. Domani, sul Sole 24 Ore. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 533 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Credit Reform è la prima scelta di banche, compagnie d'assicurazione e grandi aziende. 800 425 325 o creditreform.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Aria fredda in arrivo dai Balcani sta portando un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali e su quelle del Medio Adriatico, con nuvole e qualche temporale, e domani questa perturbazione raggiungerà il Sud Italia, quindi domani sarà una giornata di maltempo nelle nostre regioni meridionali peninsulari e ancora una volta sul Medio Adriatico, con piogge diffuse anche sotto forma di rovescio temporale. Migliora invece rapidamente al nord e anche in Sardegna. Vi segnalo sempre per domani venti piuttosto sostenuti e temperature in diminuzione un po' in tutta Italia, soprattutto sulle regioni adriatiche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli www.meteo.it. Zanini, titolare Zanini Porte S.p.A. Siamo un'azienda leader nella produzione di porte per interni e porte tagliafuoco. Vendere all'estero è sempre stato il nostro obiettivo. Così abbiamo affiancato al nostro staff un export specialista Comarc, facendolo operare su nuovi mercati. In breve tempo ha consolidato una strategia vincente, trasferendola poi agli altri collaboratori dell'azienda. Diventa anche tu un'azienda di successo con Comarc. Comarc, 800-123-640. Comarc, www.aziendedisuccesso.it. Hai finito il lavoro? La prima parte. Come la prima parte? Il resto lo faccio nei prossimi 60 mesi. È più comodo fare a rate. Oggi nuovo Caddy è tuo a 196 euro al mese in 60 rate. TAN 4,5 TAEG 608. Offerta valida fino al 30 giugno. Salvo approvazione Volkswagen Bank. Condizioni presso i concessionari e sul sito volkswagenveicolicommerciali.it. Con la nuova Xerox Color Cube 8570 in ufficio sono solo complimenti. Che stampe a colori eccezionali, anche su carta riciclata. Che belle scarpe, visto? E con Xerox Color Cube 8570 hai anche 200 euro di rimborso. Vai su xerox.it/promo. Uno per tutti, tutti per uno! Sì, per un centesimo. Di che parli, D'Artagnan? Ma dell'offerta Poste Mobile Insieme. Passate a Poste Mobile Insieme. Fino a 4 SIM che parlano ed inviano SMS tra loro a un centesimo. Basta ricaricare ogni mese la vostra SIM di almeno 10 euro. Tariffe, costi e condizioni al 160 o su postemobile.it. Poste Mobile per tutti, tutto per un centesimo! Poste Italiane. Ok, adesso dimmi con un tono più istituzionale GDF Suez. GDF Suez! Ma perché alzi la voce? Perché sono pieno d'energia. Ho capito, però questa volta dai, scandisci per bene le parole, su. GDF Suez. Oh, finalmente, eh? Vai avanti. GDF Suez è un grande gruppo internazionale che mette sempre il massimo dell'energia in tutte le sue forme, eolica, solare, da fonti tradizionali. Bravo! Per saperne di più visita gdfsuez.it. A tempo di sport. Tutti d'accordo nel dire che ci sia molto allegri nello scudetto del Milan? Quanto? Provate a dirmelo voi. Qual è la vostra opinione in proposito? Io intanto ve lo faccio sentire. È normale che vince lo scudetto al primo anno, è una bella sensazione, una bella soddisfazione. È normale che ora, quando finiremo anche con la Coppa Italia e finirà la stagione, ci metteremo a tavolino per vedere sicuramente di andare a migliorare questa squadra che è già forte, per essere sicuramente più competitivi a livello europeo, ma questo la società lo sa, anche perché ha molta più esperienza di me. Quindi poi soprattutto il presidente si è già esposto dicendo che ci farà qualche regalo. Vedremo quali saranno i regali del presidente. Questo era intanto Massimiliano Allegri, mentre un pazzesco canestro di Pargo tiene il Maccabi in sella a questa partita, attaccato a questa finale che vale l'Europa dei canestri. Panathinaikos Maccabi che si sta giocando a Barcellona, torniamo a fare un aggiornamento con Nicola Accardo. Sì, ciao Carlo, mi sono allontanato dalla tribuna stampa perché il clima è davvero infernale, 6.000 tifosi israeliani con... Tribuna stampa però, evidentemente non funziona, almeno lì ci riproviamo. 35 Panathinaikos, 34 Maccabi, 7.41 da giocare nel terzo periodo. Io invece torno con grande piacere a parlare con gli ascoltatori, 800 24 00 24. C'è chi mi scrive, il solito fazioso Lombard che denigra la Lazio, Aldo. Non saprei, se vuole Aldo le dico che la Lazio ha giocato una grande partita, però direi una bugia. Davide da Parma che scrive, buonasera, perché dice di non aver mai visto un rigore calciato così male come quello di Zarate? Se avesse segnato sarebbe stato osannato come un gran rigore col cucchiaio, quel tipo di rigore non da scampo, figuraccio gloria o no. Vabbè, secondo me ha tirato un rigore da tamarro in un momento sbagliato, perché leggete la classifica e ditemi se era il caso di tirare, di calciare un rigore in quella maniera. Luca da Torino. Ma io da allenatore, da ex senatore, se vedo un giocatore io posso permettersi il 5-0 di tirare il rigore, sì, così. Sì, se no lo rincorre col bastone, come minimo, eh? Sì. No, io volevo innanzitutto fare complimenti a Milano, tipo Roma Azzurro, perché comunque chi vince generalmente ha sempre ragione, soprattutto se si comporta in maniera leale e sportiva. Sì. Ma vedendo un po', facendo un po' il ping pong tra la finale e la partita di Manchester, finale di Eurolega. Manchester 2-0, per la cronaca, Luca. Vi sì, dici il raddoppio, sì. Come stanno giocando? Io non lo sto vedendo. Manchester ha fatto il gol come ha fatto Pato al derby. Sì. 35 secondi e gol di Hernandez. Comunque ecco, più che le società, secondo me si dovrebbe partire dagli stadi, dai campi di gioco, perché secondo me uno che vede un campo, uno stadio, come ho visto anche in Europa League, il stadio del Porto, che è incredibile, è stupendo, per forza che le squadre giocano bene, i tifosi si comportano bene. Sì, per questioni ambientali. Cioè lei dice se vai in un immondezzaio è più facile buttare una carta per terra, se vai in un giardino è più dura. Questo è il senso. Poi sì, poi è chiaro che c'è dietro un mondo, no? Sono d'accordo sul fatto che sarebbe ora di modernizzarsi un po', però non mi sembra il paese ideale per questi sussulti di modernità. Ci vorrà ancora un sacco di tempo. La Juventus ha segnato questa strada e magari poi qualcuno con calma e a rate seguirà questo esempio degli stadi di proprietà, anche di impianti di gioco più civili. Io noto anche che, questo però è un altro tema che ci porterebbe lontano, come guardando ad esempio le partite di Europa League, in tutta l'Europa vedi delle partite di Coppa vere con una cornice degna, in Italia vedi una specie di Coppa Italia a livello continentale con squadre piene di riserve e stadi vuoti. Questo è un altro aspetto che vorrei sottolineare. C'è chi mi scrive, l'Inter ha comunque il miglior attacco del campionato, non è stato il Milan a vincere lo scudetto ma tutte le altre a perderlo, si è visto ieri sera. Non sono d'accordo su nulla di questo messaggio, se non sul fatto che è statistica che l'Inter ha il miglior attacco del campionato. Ringrazio Luca, saluto Mattia da Roma, invito chi vuol partecipare all'800 24 0024 a scrivere 349 238 6666. Mattia, buonasera. Buonasera, buonasera. Io volevo sottolineare che chiamo da Roma, ma sono un tifoso friulano dell'Udinese. Sì. Quindi vivo questa situazione di un tifoso bianconero incapiente, insomma. Volevo portare la testimonianza di quello che significa anche a livello mediatico essere piccoli in una città grande. Sì. Ho sentito tante volte in questi ultimi giorni nelle radio della capitale parlare di piazze, parlare di presenza mediatica della Roma e della Lazio, e ho notato quasi che per certi tifosi è più importante creare dei gruppi di pressione, gruppi di piazza che possano creare pressione, quando Invece noi a Udine, diciamo così, rispondiamo col bel gioco, con l'allegria, che poi penso possa dare dei bei risultati al di là. Ma questo è verissimo, Mattia, questo è verissimo. Più che altro, insomma, prima mi scrivevano Lottito dovrebbe invocare la task force per la sua difesa, e avevano con una battuta ragione, perché oggi la difesa della Lazio, dopo tutto il casino mediatico che è stato montato in settimana, poi andiamo a vedere il campo e oggi onestamente nel primo tempo, se finiva 3-0, non c'era nulla da dire, no? al di là del suo commento che è di parte, però insomma oggettivamente non c'era nulla da dire in un primo tempo in cui l'Udinese poteva passare ben più di quelle due volte in cui c'è riuscita, ecco. Al di là, questo nonostante tutto il casino mediatico che è stato montato, arriviamo lì? Il mio è un appello proprio in generale, insomma, a tutti i tifosi, di pensare meno, diciamo così, ai gruppi di pressione, alla piazza, e pensare di più al bel gioco, alla bellezza di andare allo stadio e divertirsi davanti a una squadra che fa un gioco spumeggiante. Sì, sì. Grazie Mattia, alla prossima. Grazie, in bocca al lupo. 800 24 00 24, vediamo se riesco a parlare con Nicola Accardo e farmi raccontare qualcosa di questa finale di Eurolega. Sì Carlo, ora la linea non dovrebbe cadere, mancano 4 minuti alla fine del terzo quarto e quindi alla fine del terzo quarto il Panathinaikos è in vantaggio per 43-38, il vantaggio si era assottigliato perché il Maccabi risulta davvero immarcabile da 3 punti, 2 su 3 per Blutenthal, Pnini, Eitzon, e questa è la sola arma con cui gli israeliani riescono a contenere in qualche modo il micidiale pick and roll tra Battiste e Diamantidis. Il greco eletto ieri miglior playmaker dell'Eurolega è fermo a 9 punti, 7 punti per Battiste, e ora invece il Panathinaikos ferisce con l'arma dei 3 punti perché è stato Roma Insato 2 minuti fa a siglare il 43-38. C'è un time out che sta finendo, la partita in volata sembra in discesa per i greci del Panathinaikos. E dopo proviamo a raccontare il finale di questa partita, intanto ringrazio Nicola Accardo. Adesso c'è il traffico, subito dopo facciamo un salto a San Siro e parliamo un po' di Inter. Strade in diretta. Sulla 11 Firenze Mare ci sono delle code di circa 2 km a causa di un incidente tra Lucca Est e Capannori in direzione Firenze. Incidente code anche sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e l'innesto per la 12 verso il capoluogo Ligure. Si intensifica il traffico sulla rete autostradale, ancora in Liguria, code in direzione Genova sulla 12 tra Chiavari e Recco, code e rallentamenti sulla 10 tra Finale e Savona e tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori. Code per il traffico intenso anche sulla carreggiata nord dell'autostrada del Sole tra Firenze Sud e Scandicci e tra Canenzano e Barberino. Sulla 14 Adriatica ci sono code per il traffico tra Faenza e Imola verso Bologna e ci sono code anche verso Milano sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Il talento non ha età e le aziende crescono solo grazie alle capacità di chi ci lavora. Randstad, agenzia per il lavoro internazionale che si occupa di ricerca, selezione, formazione e somministrazione di risorse umane, ha i numeri giusti per diventare il partner nella ricerca del personale. Randstad, presente in 43 paesi, con oltre 4.000 filiali e 27.000 dipendenti, è la seconda agenzia di servizi Human Resource al mondo. Affidabile e professionale, attraverso l'applicazione di un modello operativo rigoroso, Randstad dà forma al mondo del lavoro, agevolando l'incontro tra domanda e offerta, per garantire l'eccellenza del servizio e la soddisfazione di chi offre e cerca lavoro. Maggiori informazioni su www.randstad.it. A tempo di sport. Dunque, torniamo con Angelo da Firenze e poi andiamo a San Siro. Angelo, buonasera. Buonasera a lei. Dica. Volevo chiedere un po' la sua opinione su quella che è la situazione del Napoli relativa alla posizione di Mazzarri e quindi a quanto questo secondo lei influenzi poi sul Napoli, che nelle ultime 4 partite ha perso 3 volte, e insomma, ascoltare la sua opinione, perché a questo punto è rischio anche la terza posizione. No, non credo che il terzo posto sia a rischio, sinceramente sarebbe una grande ingiustizia, io credo, se il Napoli non arrivasse sul podio di questo campionato, perché lo merita in maniera totale. Credo che queste voci abbiano influito un po', il giusto, come sempre accade. Credo che il Napoli abbia un po' finito la benzina dopo un campionato giocato a livello fisico su livelli di eccellenza per un periodo incredibilmente lungo, perché grande segreto del Napoli è stato quello di avere pochi infortuni, perché ne ha avuti pochi, e di avere una grande condizione fisica mantenuta per molto tempo. Poi la benzina è un po' finita, magari soprattutto quella emotiva, perché la partita della svolta credo sia stata quella sconfitta interna con l'Udinese, in un periodo in cui l'Udinese non riusciva più a far risultato, non riusciva più a vincere, e vinse quella partita del San Paolo che era la partita della grande speranza. E credo lì sia un po' svaporato il sogno, si sia un po'... Insomma, il Napoli aveva capito che per lo scudetto non c'era verso, e quindi complice voce su Mazzarri aveva un po' magari mollato gli ormeggi. Posso dare questa lettura, però certamente le voci su Mazzarri un po' hanno influito su un ambiente che è stato perfetto per praticamente per tutta la stagione. Ambiente Inter, Giovanni Capuano da San Siro invece oggi com'è? Ma ti devo dire, ciao Carlo, intanto ciao. Ambiente Inter che oggi ha incassato di fatto il raggiungimento dell'obiettivo che si era prefisso per quanto riguardava il campionato in questo finale di stagione, cioè raggiungere la Champions senza nessun timore nelle ultime giornate. Oggi bastava un punto per avere la certezza di arrivarci senza i preliminari. Di fatto la sconfitta del Napoli di cui parlavi porta il Partenopea a 4 punti, potrebbe anche regalare quasi la certezza del secondo posto, che è un obiettivo che Leonardo si è dato anche per giocarlo poi sul tavolo di un'eventuale riconferma con il presidente Moratti. Oggi qui a San Siro è stata una giornata assolutamente di fine stagione, con la testa più verso la semifinale che si giocherà mercoledì sempre qui a San Siro contro la Roma di Coppa Italia, che è l'ultima tappa prima di quella finale che in tanti fra i tifosi ma non solo sognano come possibile carta di rivincita da giocarsi nei confronti del Milan. Se poi sì, consideri che la Fiorentina dai 90 minuti di oggi non aveva da chiedere praticamente nulla, insomma ne esce che è stata una partita a tratti divertente che può aver dato qualche indicazione interessante a mio parere a Leonardo in vista proprio della semifinale di Coppa, intanto sulla condizione di alcuni giocatori chiave. Il primo è Pazzini, che certamente in questo finale di stagione non dovrà subire un dualismo con Milito, che oggi è rimasto in panchina. Pazzini la gerarchia è quella: Pazzini titolare, Milito riserva per a questo punto le ultime due partite importanti della stagione, quelle di Coppa Italia. Assolutamente, se consideri che prima della trasferta di Cesena Pazzini era dato in crisi perché non segnava da 4 giornate, diciamo che tra gli ultimi 5 minuti di Cesena e i 90 minuti oggi contro la Fiorentina ha chiarito la gerarchia. L'altra notizia positiva è nella condizione di Cambiasso e di Maicon. Cambiasso tra l'altro con il gol di oggi è arrivato a quota numero 7 ed è il suo record in carriera in una stagione, ed è un numero importante per uno dei giocatori che è stato più criticato quest'anno, per il quale era stato maggiormente segnalato un calo di rendimento rispetto alla passata stagione. C'è anche ovviamente l'altro lato della medaglia, che sono le incertezze che ancora oggi hanno mostrato i centrali difensivi. Ranocchia prima di tutto, oggi al suo fianco aveva Materazzi che era stato preferito a Lucio, lasciato a riposo proprio in vista della partita contro la Roma. Sono forse loro due gli unici due insufficienti di questa domenica pomeriggio. Del resto non è un caso, e anche oggi l'Inter l'ha dimostrato, se in questo campionato l'Inter ha subito 17 gol più del Milan, forse qui ha perso davvero la sua possibilità di correre per lo scudetto. Può essere un piccolo campanello d'allarme anche in vista della partita contro la Roma, perché l'1-0 dell'andata è evidentemente un risultato importante, un risultato che mette l'Inter con i favori del pronostico, però Totti, Vucinic e gli altri, anche se Totti non ci sarà, ma anche solo Vucinic e Borriello, insomma sono giocatori cui non puoi concedere le occasioni che oggi l'Inter ha concesso a Girardino e compagni. Oggi molto bene Giulio Cesar, ma insomma non è questa una buona notizia per Leonardo. Segnalo anche crampi per chi vuole Ranocchia, segno che l'Inter in questo momento corre, però la fatica continua a farsi sentire. Poi fa molto caldo e questo incide, come sappiamo. Io ti ringrazio, grazie a Giovanni Capuano, quadro molto preciso sul pomeriggio dell'Inter con riflessi di Coppa Italia. Stefania da Genova, buonasera. 800 24 00 24 è il numero verde. Buonasera Stefania. No, buonasera, riproviamo. Oggi funziona poco, funziona pochino qui. 800 24 00 24 è il numero verde. Io adesso, sempre voci da scudetto, mentre il Panathinaikos sta allungando sul Maccabi, è a più 11 e quindi c'è un ex senese che potrebbe festeggiare il titolo, ed è Romain Sato, che peraltro sta giocando molto bene. Non so se è tornata Stefania. Sì, che c'è. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, mi dica. Intanto le volevo fare i complimenti perché io lavoro la domenica e la seguo tutte le domeniche e devo dire che la sua capacità di essere equilibrato è veramente lodevole. Stefania, la ringrazio, non mi faccio arrossire. Non credo. E poi mi piace perché non mi... A me non piace come si sente il suo telefono, però. Dica, proviamo, riproviamo. Porca miseria, non ci riusciamo. Ma ci abbiamo tempo, c'è il giornale radio, vorrei parlare con Stefania dopo questa... Si sono sentiti gli elogi che era la parte meno interessante, ecco, volevo sapere cosa aveva da dire. In prospettiva derby della Lanterna, che questa sera sarà bollente. No, io continuo a farvi ascoltare voci da scudetto, anche se leggo che il Manchester United sta demolendo il Chelsea, non ha la possibilità di vedere questa partita per problemi tecnici. C'è chi scrive all'interno di questo messaggio due considerazioni: se il Milan puntasse all'Europa, il gap da colmare sarebbe amplissimo. Io sono molto d'accordo su questo. Insomma, il Milan ha una dimensione, è tornato ad avere una dimensione nazionale, ha cambiato pelle ed è tornato ad avere una dimensione nazionale. In Italia lo scudetto l'ha vinto, per tornare ad essere una squadra di livello europeo serve molto, secondo me. Questo Milan non è attrezzato per vincere la Champions League, per essere competitivi in Champions League. Servono degli innesti, sono stati promessi regali e regalini, vedremo se arriveranno. Intanto vi do un ultimo parziale con il Panathinaikos che sta vincendo 51-40 sul Maccabi e vi faccio sentire Clarence Seedorf. Questo è il calcio, questi sono i momenti. Io voglio solo pensare a quello che significa per il Milan. È un momento bellissimo dopo 7 anni. Il gruppo crescerà tantissimo dopo questa vittoria. Adesso cerchiamo ancora di portare a casa anche la Coppa Italia, che sarebbe poi un anno stupendo, davvero. E già che ci siamo con i senatori, prima del GR riesco a farvi sentire anche Gattuso. No, ci ho messo tanto veleno, tanta rabbia, perché dopo tanti anni di aver indossato la maglia del Milan l'anno scorso, aspetta che sono ottimo, non ho attraversato, è stato un anno molto brutto da parte mia, anche perché non stavo bene fisicamente, però quest'anno ci siamo levati e mi sono levato una grande soddisfazione. E può essere che questo sia il passo d'addio, dicevo prima, per Gattuso. Saprete, avete letto di questa offerta dei russi, ballano 10 milioni al giocatore per 2 stagioni, lo stesso Milan potrebbe ricavarci qualche quattrina, comunque hanno detto grosso modo a Gattuso, insomma, vai e prendili, vai e gioca queste ultime 2 stagioni per una montagna di denaro. C'è chi scrive: mi chiedevo se fosse giusto dare un'altra chance a Milito, il prossimo campionato può tornare ad essere quello dell'anno scorso. Io continuo a pensare che l'Inter abbia perso la grande occasione di vendere Milito l'anno scorso, quando peraltro l'aveva anche chiesto a bordo campo con la Coppa dei Campioni ancora da alzare. Non credo che Milito possa tornare ai livelli dell'anno scorso, pur rimanendo un grandissimo giocatore. Ci voleva del fegato, del coraggio a vendere la tua superstar, a vendere Milito dopo quello che aveva fatto l'anno scorso, però poteva essere, con un po' di lungimiranza, il momento buono. 800 24 00 24, numero verde, io vi aspetto qui, non mi muovo e dopo GR torniamo a parlare insieme. A tempo di sport. Dunque, nel GR avete sentito questo ampio riassunto di ciò che è successo oggi, un sacco di sport ancora da vivere. Peraltro c'è il Panathinaikos che sta allungando le mani sul titolo europeo del basket, manco a dirlo, 61-51 a 6-13 dalla conclusione di questa finale di Eurolega. C'è invece il Manchester United che sta ugualmente allungando le mani sul titolo inglese con pensieri di doppietta, perché come sapete il Man U sarà in finale con il Barcellona di Champions League naturalmente. 2-0 al Chelsea, gol di Hernandez dopo un pugno di secondi, raddoppio di Vidic al 23esimo, siamo all'intervallo qui. 800 24 00 24 è il numero verde e mi fa piacere tentare di nuovo di parlare con Stefania da Genova, vediamo se ci riusciamo, insomma. Stefania? Buonasera, buonasera. Allora, buonasera. Beh, passo i complimenti, d'accordo? Esatto, li abbiamo sentiti, era la parte meno interessante, meno importante. No. Se Senta, allora, noi stasera vorremmo vedere la Sampdoria in Serie B, l'ha già detto il Genuano prima, sì. Sono tutte vere queste cose, non siamo, siamo, il tifoso non è intelligente, non è uno sportivo e quindi io mi annovero in questa categoria. Allora Stefania, distinguiamo, tifoso non è intelligente, no. Perché no, mi sembra eccessivo. In frangenti, non è sportivo, non è sportivo, sono non d'accordo sportivo. E ci sta. No, sì, anche perché quando la Sampdoria ha vinto lo scudetto, noi abbiamo avuto i ballatoi dei nostri appartamenti rifasciati di blu cerchiato. Sì. Quindi lei può immaginare se vanno in Serie B. Sì. Ma le volevo chiedere un'altra cosa, quindi confidiamo in una vittoria, speriamo che il Genoa non si senta troppo forte, eccetera, eccetera. Ma queste voci che circolano nei nostri vicoli genovesi di un ritorno del principe Milito a Genova, col Genoa si intende, lei che ne sa? Guardi, io credo che Milito andrà via dall'Inter, dove è difficile capirlo, bisognerebbe domandare a Preziosi quanti soldi ha in cassaforte, perché comunque per Milito serve un contrattone nonostante il cuore genuano che il principe tiene. Stefania, quindi credo serviranno parecchi quattrini per... Ce ne vorranno tanti. Sì, temo di quindi, sì. Quindi chissà, perché sì. A noi ci piacerebbe se lui tornasse a Genova, è stata una stagione fantastica e lui credo che amasse anche questa città che è molto bella col suo mare e le sue cose. No, ma, sono ma un po' sentimentale sì, dopo le detto. Cose brutte che ho detto prima, mi perdoni. Comunque forza Genova. Lei è bravissima. Grazie Stefania, torna a trovarmi quando vuole che mi fa piacere. 800 24 00 24, numero verde Panathinaikos 63 Maccabi 51. 5 minuti secchi alla conclusione. Giovanni da Pordenone, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, rilassandomi un attimino a quello che è la stagione della Sampdoria quest'anno, e noi dell'Udinese cominciamo a programmare un attimino anche quelle che saranno, diciamo, le trasferte dell'anno prossimo, perché sì. Con la vittoria di oggi probabilmente andiamo in Europa, sì, sì. Facendo tutti quanti gli scongiuri. Bisogna vedere quale Europa. Esatto. Siccome che non sarà l'Europa della Champions League, perché riprendere il Napoli è una cosa impossibile, improbabile. Beh, ma quarto posto vale preliminare. Quarto posto vale preliminare, però quest'anno la squadra che ha fatto il preliminare stasera si gioca la permanenza in Serie A. Sì, sì, sì, ma guardi, non sarebbe. Lei si ricorda l'Udinese? Ricordami. Esatto, se lo ricorderà, si paga questo, non c'è dubbio. Non c'è dubbio sul fatto che si paga e bisogna sapere che il prezzo è alto e che quindi bisogna attrezzarsi di conseguenza. Perciò è possibile il prossimo anno fare sia preliminari che poi tutto quello che ci va dietro, se sarà Europa League piuttosto che Champions, però bisogna avere una squadra più rinforzata, un dualismo, diciamo, anche in parco giocatori. Sì, beh, bisogna avere certamente una squadra più lunga, all'Udinese, insomma, i piani aziendali sono molto chiari. Credo che l'Udinese cederà alcuni giocatori importanti, su tutti Sanchez, che tra l'altro oggi ha giocato l'ennesima fantastica partita. Credo che Sanchez sia destinato all'Inter. Credo che l'Udinese cederà anche magari qualche altro giocatore, a cominciare da Inler. Però sono molto bravi, anche qui sto dicendo delle banalità, nel trovare nuovi talenti. È chiaro che bisognerà mettere in conto tutto quello che eventualmente un turno preliminare, eventualmente l'Udinese ce la facesse a portare a casa questo quarto posto, bisogna mettere in conto tutto quello che un turno preliminare comporta: preparazione anticipata, grande dispendio di energie, viaggi molto lunghi. Tutte queste cose che non possono non influire su una stagione, e tutto questo, queste sono cose che bisogna sapere. Serve un organico lungo, serve una programmazione adeguata e non bisogna commettere errori da quel punto di vista. Poi è chiaro che un club come l'Udinese insomma, vive su questa politica e campa benissimo su questa politica. Non credo che farà eccezioni a questa politica nel caso in cui si dovesse andare in Champions League. Gianluca, provincia di Modena, buonasera. Buonasera Genta, io volevo chiedere a lei fare una riflessione, insomma, sul Milan e su Allegri e su, secondo lei, se Thiago Silva è veramente adesso come adesso il più forte difensore al mondo. Allegri io l'ho conosciuto, è una persona secondo me molto equilibrata e e ha dato al Milan comunque quello che è mancato in questi anni, forse anche più di Ancelotti, forse a livello nazionale. Poi ho fatto questa domanda su Thiago Silva, se secondo lei è veramente il difensore più forte in assoluto. Probabilmente in questo momento sì, certamente è uno dei difensori più forti, poi insomma dipende dal momento, dalle condizioni di forma e così via. È certamente uno dei difensori centrali più forti al mondo e questa stagione lo ha definitivamente consacrato, ma d'altra parte è un giocatore completo che ha tutto, no? Che insomma è forte, veloce, potente, è in grado soprattutto di fare ripartire l'azione, quindi ha eccellenti piedi per essere un difensore, è un giocatore pazzesco onestamente Thiago Silva, lo vedo come difensore centrale, non mi sembra possa avere grande futuro l'idea di un Thiago Silva centrocampista come in alcune sporadiche occasioni in emergenza in questa stagione si è anche visto, perché il passo non mi sembra quello del centrocampista. È chiaramente un giocatore clamoroso. Se sia in questo momento più forte difensore centrale del mondo, ma probabilmente sì, lui e Piqué si dice, no? Tra i due io mi prendo Thiago Silva tutta la vita, per inciso. Ci fermiamo per il traffico. Quanto ad Allegri, beh sì, tutti d'accordo nel dire che sul fatto che abbia dato più ad Ancelotti sul piano nazionale, andrei piano, che la prima stagione vincente, meravigliosa, intelligente di Allegri, su questo non ci piove, però Carletto Ancelotti al Milan ha dato un po' di argenteria, quindi aspetterei qualche stagione per fare di questi confronti. Traffico. Strade in diretta. Traffico di rientro al termine del weekend, le code sulla 7, la Milano-Genova verso il capoluogo Ligure tra Bolzaneto e l'innesto con la 12 Genova-Livorno sono le conseguenze di un incidente irrisolto, ma c'è molto traffico verso il capoluogo Ligure anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia e sulla 12, c'è molto traffico anche verso Bologna, Roma e Milano e intorno a Firenze. Per quanto riguarda le condizioni meteo, è allerta per i forti venti che nel corso delle prossime ore interesseranno prima il nord e in particolare i settori centro orientali e poi il centro sud con raffiche di burrasca in Adriatico. Noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Un altro aggiornamento sulla finale di Eurolega, titolo europeo dei canestri, 67-56 per il Panathinaikos con canestro da tre punti di Drunikolas a tre minuti dalla conclusione. Sempre Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia che porta i segni di una notte di baldoria per lui rossonero. Non mi sbaglio di sicuro. Intanto, visto che sono stato accusato da tale Aldo via SMS di essere il solito fazioso lombarda che denigra la Lazio, allora vado da una voce che i tifosi della Lazio amano, come quella di Stefano Benedetti, da Radio Radio, ma soprattutto da www.cittaceleste.it, su internet cuore pulsante della tifoseria laziale. Ciao Stefano. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Io sarò lombardo, ma oggi ve le hanno date secche nel primo tempo. Capito, ma come facevi a sapere che io avrei avuto la tua stessa opinione? Perché sei tifoso, ma sei uno che capisce di calcio, quindi non sarai anche fazioso, ma di calcio ne capisci, non si può dire altrimenti, insomma, in quel primo tempo poi si può dire quello che si vuole. Vado oltre 70 minuti finché le due squadre sono rimaste in parità numerica in campo. C'è stata solo una squadra che ha giocato al calcio, che è stata l'Udinese, proprio nel momento in cui la Lazio era chiamata all'ennesimo gol di questa stagione, ne ha persi tre di seguito, pensate, prima ha perduto a Milano contro l'Inter, questa è andata anche lì in superiorità numerica dopo l'espulsione di Giulio Cesar, il calcio di rigore quella volta realizzato, poi è andata a finire come è andata a finire. Poi domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro la Juventus, sì è vero c'era un calcio di rigore per la Lazio, ma la Juventus comunque ha vinto la partita, e oggi contro l'Udinese. Quindi nel momento in cui la Lazio era chiamata a fare almeno un punto, sul 9 non ne ha fatto neanche uno, quindi è inutile parlare di arbitri, di complotti. Bravissimo, di bravissimo. Perché poi diventano tutti degli alibi, soprattutto nei confronti di una squadra, di determinati calciatori. Bravissimo. Dove forse abbiamo colpa anche noi a definirli dei fenomeni, che fenomeni non sono, che comunque nel momento topico della stagione hanno il braccino corto del tennista. Ad esempio mio caro, visto che parli con un libro stampato oggi particolarmente, ad esempio mio caro, oggi la partita di Garrido, non per voler infierire, no, ma il primo tempo di Garrido è stato qualcosa da... Non da Serie A, bravo. Non da Serie A, cioè non è che qui stiamo parlando di un giocatore che non ha che ha giocato male, perché c'è la possibilità che un giocatore possa interpretare male, approcciare male una partita, ma nel primo tempo dalle parti di Garrido non solo sono arrivati due gol, ma per due volte l'Udinese ha messo un giocatore solo davanti al portiere della Lazio Muslera. Quindi a quel punto giochi in 10 uomini, fai giocare in 10 uomini la tua squadra, ma fai giocare in 12 la squadra avversaria. Non è una cosa normale. Senti Stefano, ti chiedo anche di commentarmi questo messaggio che prima ho letto. Io ho detto prima, guardando il rigore di Zárate, considerato soprattutto il momento, ho detto tirare un rigore in questa maniera è criminale, non si può. C'è chi scrive Davide da Parma: se avesse segnato sarebbe stato osannato come un gran rigore col cucchiaio. Non poteva segnarlo perché non era un cucchiaio, è un rigore tirato male. Appunto. Non era un cucchiaio, quello di oggi era una schifezza. Cucchiaio è un'altra cosa, cioè, voglio dire, no? Purtroppo poi quando parliamo di cucchiaio, noi che siamo romani sposa laziale, esatto. No? Ecco. Sì. Comunque non era un cucchiaio. I rigori si possono sbagliare, li hanno sbagliati i più grandi calciatori. Sì, però si tirano in un altro modo. Si possono mandare sul palo, possono essere parati dal portiere, possono essere mandati alti sopra la traversa, ma non si possono tirare come l'ha tirato Zárate oggi. C'è chi mi manda un messaggio: cosa farebbe Benedetti a Zárate? Gli darebbe 3 in pagella. Andate sul sito cittaceleste.it a vedere le pagelle. E sportivamente parlando gli ho dato del brocco. E a Raia quanto hai dato? 4 molto perché bene. È una squadra smidollata, senza coraggio, una squadra che non può perdere 3 partite consecutive nel momento più importante della stagione, dove bastava fare magari un punto, 2 punti, guarda che ti dico, sul 9 a disposizione non puoi fare 0. Sì. Quindi Raia è nello stesso modo, in egual misura, direttamente responsabile insieme alla squadra dell'andamento della squadra che oggi, della Lazio, che oggi, dando un'occhiata alla classifica, ci rendiamo conto rischia anche di non andare in Europa League. Sì, è complicata. Questo finale è davvero interessante per quanto riguarda le posizioni di rincalzo, ed è tutto da giocare, quindi su questo hai ragione. Sarebbe un peccato perché la Lazio onestamente merita l'Europa per la stagione che ha fatto. Sai che ti dico, Carlo, che è difficile valutare la Lazio perché l'anno scorso di questi tempi stavamo lottando per non retrocedere. Sì. Quest'anno è partito il campionato, la Lazio è stata per molte giornate prima in classifica, poi seconda, poi prima, poi terza, seconda, ha fatto un campionato da vertice, però sai, il campionato dura 38 partite, se tu alla 38esima ti ritrovi in una situazione poco dignitosa dopo aver perso anche 3 derby stagionali, perché comunque anche se è un discorso provinciale, Ovvio che se la Lazio andasse in Champions League dopo aver perso i derby, chi se ne frega. Ma se tu non vai in Champions League, rischi di non andare neanche in Europa League e perdi 3 stracittadine, 2 di campionato e 1 di Coppa Italia, vuol dire che la tua stagione è fallimentare. Posso capire, la ringrazio, alla prossima. Anche io a lei. Un abbraccio. Un abbraccio a Stefano Benedetti. Tanto ci sono anche a Napoli, insomma, i nervi sono abbastanza tesi perché De Laurentiis oggi ha dichiarato, secondo me, eccedendo in maniera abbastanza vistosa. Ha detto De Laurentiis: la gara è stata decisa da un gol all'ultimo minuto, è vero, ma è stata una prestazione che mi ha reso molto triste. Oggi abbiamo dimostrato di non essere un gruppo coeso, capace di concentrarsi nei momenti decisivi. E poi è stata a sentire questo: i giocatori non sono degni di indossare questa maglia e di rappresentare i colori del Napoli. Ma come? Ma come col campionato che ha fatto il Napoli? Mi sembra una posizione un po' da tifoso. Mazzari come replica? Ci vuole più coraggio per lasciare un progetto o a rimanere col rischio di non ripetersi? Non è detto che sia finita. Ad oggi c'è un contratto, a fine anno dipenderà da come mi sentirò. La Juve non ha avuto alcun contatto con la società. Poi, sulle parole di De Laurentiis, è normale parlare a fine anno con il presidente, si è creata una situazione kafkiana, gli scenari possono cambiare durante il percorso. Fa anche il filosofo Mazzari, indubbiamente le voci sul suo addio un po' di influenza in questo momento difficile del Napoli l'hanno avuta. A proposito di chi ha fatto festa ieri, saluto e ringrazio Giorgio Mastrota. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Come hai festeggiato? Ma io dopo qualche settimana che festeggio ero già certo del successo in campionato. Però no, c'è il momento in cui... è stato un successo un po' trascinato, cioè il momento in cui esplode, ovviamente, però ormai insomma tutti se lo aspettavano. È stata una bella serata, insomma. Sì, un suggello. Hai sentito Oddo e la scommessa con Galliani? Se faccio il giro di campo in un minuto, mi rinnovi il contratto. Te lo faccio anche sentire, sentilo qui. Perché è partita una scommessa con i miei compagni che avrei fatto un giro condizionale. In queste condizioni avrei fatto un giro in meno di un minuto, 58 secondi. No, noi abbiamo cronometrato 1 e 4, un minuto e 4. Mi 4 e gli anni mi ha fatto un altro anno di contratto. Ma non vale, che ti eri bevuto? Lo champ? No, lo champ l'abbiamo fatto. In condizioni discutibili dopo la festa, caro Giorgio. Esatto, dopo la festa in grande allegria. A me lui è molto simpatico, però io lo vedrei molto meglio a fare il minuto avanti e indietro in corso Garibaldi. Lo vedo spesso a bere il caffè e secondo me è il suo po' più appropriato di questi. Sì. Sono andato a vedere la partita di Coppa Italia Milan-Palermo e un tifoso di fianco a me, mentre correva, continua a ripetere Stali e Oddo. Lo trovavo molto carino. Senti. Siamo alle comiche, Stali e Oddo. Ascolta, va, questi problemi di rinnovi, cioè problemi, affari di rinnovi contrattuali, è chiaro che c'è la riconoscenza, che ci sono dei giocatori cui tutti i tifosi milanisti sono affezionati da anni, sono tutte cose note ed evidenti, però siamo al nodo, no? Ci sono contratti a rinnovare, qualcuno andrà via. Qualcuno andrà via per forza, adesso è il momento in cui sono tutti buoni e tutti a lei, facciamo festa, però insomma, credo, adesso non vorrei infierire sul buon Oddo, però come lui ce ne sono altri che insomma, anche con tutto quello che hanno guadagnato, con tutte le partite che hanno giocato, sì, anche se si riposassero un attimo non sarebbe una tragedia. Sì, o Gattuso che insomma 10 milioni per due stagioni in Russia. Insomma, tanto dire, insomma, si vanno a prendere i soldi che hanno già guadagnato. No, vabbè, dai, va bene, dai. Sì, che facciano, sì, insomma, delle scelte. Ti faccio una domanda da tifoso, quale sei? Allora, c'è chi dice, ci sono milanisti che dicono: io la finale con l'Inter non la voglio giocare perché gioco quella finale, la perdo e loro finiscono la stagione col sorriso e io un po' arrabbiato. No, invece la goduria del tifoso secondo me è vera, e insomma anche quando c'è quel po' di sofferenza la partita diventa molto più godibile. Secondo me riuscirli a battere anche in una finale di Coppa Italia sarebbe il massimo, se poi questo non dovesse accadere. Però io ho timore che a Palermo arrivino un po' fiacchi, non lo so. Io spero di arrivare a giocare una bella finale. Ti chiedo ancora questo, l'ombra dello scudetto chi è stato? Allegri, Ibrahimovic, Boateng, Thiago Silva o qualcun altro? Allegri a me è molto simpatico, oltre che essere una persona piacevolmente furba, secondo me, sì, molto sormione, sì, bravo, sì, a gestire molte situazioni, comunque un bel personaggio. E io vado controcorrente, io il simbolo di questo Milan, un po' pasticcione, lo vedo molto in Robinho, perché è una persona che si è applicata fino alla fine, ha sbagliato tanto, però ha gioito con i suoi compagni. Insomma, un Milan molto di alti e bassi. E sì, quindi sì, lui, secondo me, è l'emblema, anche se sembra strano, di questa squadra. No, ci sta ampiamente. Grazie, Giorgio. Grazie a voi. Un abbraccio. Buona giornata, forza Milan. Grazie a Giorgio Mastrota. Anche Robinho è protagonista di questa squadra, certamente. Un giocatore che è stato pure molto intelligente nel cambiare pelle, non da seconda punta, non più da stello o stellina, ma da quasi da faticatore dell'attacco. Dicono sbaglia un sacco, sì, ma guardate quanto corre, cioè lui non giocava in questa maniera prima, faceva altre cose. Mario da Verona, Giuseppe provincia di Milano, Andrea da Trento, torna a parlare con piacere con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Mario, buonasera. Sì, buonasera signor Genta. Intanto insomma oggi ho iniziato ad ascoltarvi con l'intervento di quella amica di Genova, alla quale insomma faccio i miei complimenti, perché veramente nelle sue parole c'è il succo della bontà, della genuinità dello sportivo e del tifoso, insomma. Sì, che è stata bravissima Stefania nel dire: il tifoso non è uno sportivo, non chiediamo ai tifosi di essere anche sportivi. No, difatti, assolutamente. Senti, io volevo parlare del Milan un attimino, perché sono simpatizzante, come mi definisco. Io spero che, avendo insomma una società molto forte alle spalle, si programmi come si deve quest'anno o il prossimo anno. Premetto che io non volevo assolutamente credere nello scudetto, perché penso che non sia la squadra più forte il Milan quest'anno. Quindi diciamo che c'è stata una forte mano data dall'Inter. Però mi auguro, appunto, come diceva lei, che la società faccia bene i calcoli, perché secondo me questo scudetto è frutto dei colpi di coda dei campioni che abbiamo. Sì. Perché l'anno prossimo Ambrosini, Gattuso, Nesta, Seedorf, insomma, penso che inconsciamente saranno appagati. Sì, beh, io credo che ci sia un nucleo che è a fine corsa, però credo che insomma questo nucleo storico abbia avuto il giusto peso sullo scudetto, cioè non sia stato un colpo di coda, perché è uno scudetto che ha molte componenti, che Allegri ha costruito sulla panchina. È uno scudetto in cui il Milan, e Allegri in particolare, è stato bravissimo a cambiare pelle in corsa, no? Perché si è affidato a Ibrahimovic, che è quello che ha dato al Milan, all'ambiente Milan quasi tutto intero, tifosi compresi, un'altra dimensione, perché non dimenticatevi com'è stata la scorsa estate del Milan con, ripeto, Yepes a costo zero, Boateng che ancora non si conosceva, e che pure è un altro che ha fatto, questo è bene sottolinearlo, dei progressi pazzeschi dal punto di vista tattico, perché era un magnifico casinista appena arrivato, giocatore di grande impeto, di qualità, lo vedevi, fisicamente c'era, piedi buoni. Però era un grande casinista, mentre è stato reinventato in questo ruolo di trequartista atipico, e questa è una genialata onestamente di Allegri. Ebbene, è arrivato Ibra che ha dato consapevolezza e ha dato gol subito, si è creato quasi naturalmente un Milan Ibra dipendente, perché lo era. Poi Ibra è calato e lì il Milan ha vinto lo scudetto, quando ha costruito comunque una squadra che di gol non ne prendeva più. Quindi è riuscita a fare a meno anche della dipendenza di Ibrahimovic, dei gol di Ibrahimovic, reinventandosi in corsa. Secondo me è un grandissimo lavoro quello dello staff tecnico del Milan, torno a ripetere. Giuseppe, provincia di Milano, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Dica. Io solo mi definisco tifoso nazionale, anche se i due termini magari vanno un po' in contrasto tra loro. Quindi, nel senso, è giusto riconoscere a livello sportivo che comunque ha vinto lo scudetto il Milan, detto appunto da interista, ha vinto la squadra che ha sbagliato di meno durante la stagione. Complimenti, bravi, certo, un po' il tifoso dentro ci rimane male, però togliamo il tifoso, lasciamo lo sportivo quale sono, ha vinto, cioè lei ha sbagliato di allora, meno. Allora, Giuseppe, stiamo dicendo che l'Inter dal punto di vista dell'organico è più forte, giusto? Sì, dell'organico sì, dopodiché rispetto al Milan ha sbagliato di più. Sì. Durante la stagione. Sì, ma è quasi fisiologico che sia così, no? Cioè, se c'è una squadra che ha un organico più competitivo, e io credo che l'Inter, pur essendo una squadra e un gruppo come il Milan, in buona parte a fine corsa e a fine ciclo, una squadra che ha bisogno di essere ristrutturata, diciamo così, quando c'è una squadra che dal punto di vista dell'organico è più forte, l'Inter è più forte del Milan in potenza, perde lo scudetto e il Milan lo vince, per forza c'è un concorso di colpe. Io credo che però questo non debba togliere dei meriti alla grande stagione che ha fatto il Milan, perché è stato molto costante, molto regolare e ha avuto tutti gli ingredienti che servono, compresa una difesa che non prende gol, cosa che all'Inter in questo momento manca, ha avuto tutti gli ingredienti necessari per costruire un grande risultato sportivo. Grazie Giuseppe, con Andrea da Trento parlo subito dopo questa breve interruzione. Intanto Panathinaikos 71, Maccabi Tel Aviv 64, a 54 secondi dalla fine della finale di Eurolega di basket. A dopo. Macchina nuova. Hai vinto a poker? No, ho dimezzato l'assegno di mantenimento di mia moglie. Poverina. Ma che poverina? Guadagna il doppio di me lavorando in nero. Hai bisogno di prove per cause di separazione e divorzio? Affidati ad Axerta, la prima agenzia investigativa specializzata nella raccolta prove. Scopri i vantaggi di un'investigazione Axerta anche nei casi di affido minori, concorrenza sleale e licenziamento per giusta causa. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. Preventivi gratuiti su axerta.it. Il mio papà fa l'architetto e da quando ha il nuovo smartphone con le mail può lavorare anche da casa. Il problema è che vuole sempre giocare con me, ma io non ho tempo. Passa a Vodafone Partita IVA, puoi scegliere la soluzione giusta per la tua attività con l'aiuto di un consulente dedicato. Con full optional extra hai BlackBerry Curve 3G, mail, internet e più di 2000 minuti di chiamate a soli 69 euro al mese, più servizio e più risparmio. Vai su Vodafone.it o chiama l'800 127 777. Vodafone. Testimonianza di Andrea, Ottico Avanzi. Cari clienti, la porta, cioè per lo sconto età, si entra dalla porta. Fino al 31 luglio da Ottica Avanzi lo sconto sulla montatura è uguale alla tua età se compri un occhiale da vista o da sole graduato. Avanzi, vedi che ti conviene. Oggi nella mia azienda si parlano tutte le lingue del mondo, con i fornitori in cinese. Con i distributori in rumeno. Prescump! Con i clienti in inglese. The right pressure is 10 bar. Ma chi è che parla la mia lingua? Pantera, lo straordinario strumento di gestione che accompagna l'impresa italiana a competere nel mercato globale. Pantera parla la tua lingua. Visita il sito www.pantera.it. Pantela? No, Pantera, col TH. Che forza, gli squali! Tornerai giù altre 1000 volte! Se vuoi divertirti di più, puoi rimergerti senza gabbia. Ma dai, spegni! Scherza! Senza sicurezza, c'è poco da divertirsi. Subaru Forester Widget 2011, 4.000 euro di vantaggio e un allestimento più ricco. Da 25.980 euro, anche con finanziamento fino a 20.000 euro in 48 rate da 469,25 euro. TAN 2 9 TAG 396. Fino al 31 maggio, salvo approvazione istituto rogante, info negli showroom aderenti. Una stampante HP a 29,90 euro? Un cellulare Samsung a 49,90 euro? Ma sono prezzi incredibili! No, sono solo alcuni degli irresistibili sottocosto Expert! Come lo smartphone Samsung full touchscreen, tastiera a scorrimento, fotocamera 3.2 megapixel a 99,90 euro. Expert! Gli esperti siamo noi! Offerta valida dal 5 al 14 maggio. Vedi regolamento nei punti vendita aderenti. Sottocosto! Roba da matti! Il Sole 24 Ore presenta Guida alla mediazione, un'opera completa che approfondisce la normativa, le tecniche e le procedure della mediazione civile e commerciale. Libro e banca dati su CD-ROM con i testi di legge fondamentali, la dottrina, le monografie di approfondimento e una ricca selezione di formule e modelli. In edicola con Il Sole 24 Ore. I'd like to teach the world to sing. Sing with me. 125 anni di Coca-Cola, 125 anni di felicità insieme. Con la nuova Xerox Color Cube 8570 in ufficio sono solo complimenti. Che stampe a colori eccezionali, anche su carta riciclata. Che belle scarpe, visto? E con Xerox Color Cube 8570 hai anche 200 euro di rimborso. Vai su xerox.it/promo. A tempo di sport. Torniamo insieme mentre mancano 22 secondi all'assegnazione del titolo europeo dei canestri. Panathinaikos 74, Maccabi Tel Aviv 70 in questo momento, ma il Panathinaikos si appresta ad alzare un'altra coppa. Andrea da Trento, grazie per la paziente attesa. No, non c'è nessun problema, è un piacere di sentirla. Io spero di non uscire troppo dai discorsi calcistici, sì, classici, per parlare di un'altra cosa e spero di essere veloce. Prego. Parlando di fair play finanziario, sulla quale Radio 24 con il signor Granzini batte abbastanza ed è stato sempre molto chiaro e esaustivo anche con l'aiuto dei tecnici del Sole. Arrivando alla dichiarazione che i tifosi non sono intelligenti, c'è in mezzo tutto il discorso legato al mercato. Allora, sì, però io su questo discorso dei tifosi, che i tifosi non sono intelligenti, non sono d'accordo, perché non sono intelligenti mi sembra un'esagerazione, mi sembra un estremismo. Non sono obiettivi, questo certamente. Volevo soltanto essere eccessivo, ma era soltanto per agganciarmi a un altro discorso, nel senso, partiamo dai media e partiamo da media anche che sono molto capaci nel loro lavoro, può essere Radio 24 dal punto di vista della radiofonia e Sky dal punto di vista della televisione, della TV. Perché si continua in questo modo nel bombardare i tifosi, gli sportivi, la gente comune, nel fare sognare i grandi campioni da Ganso al Milan, a Messi forse all'Inter, quando da un certo punto di vista una delle ultime dichiarazioni che ho sentito su Radio 24 appunto mi sembrava molto molto obiettiva. Si parlava: se questo è l'anno di Inter e Milan, meglio che si sbrighino a vincere lo scudetto quest'anno, perché dai prossimi anni poi i conti saranno a posto, oppure non potranno acquistare neanche un quarto del campione di Messi, neanche un terzo del campione di Ganso. Però posso... perché si continua a bombardare con questi messaggi? Posso dire una cosa? Lei sa chi c'è in finale di Champions League, no? Certo. Lei sa quali sono i tre club più indebitati al mondo? Tra cui il Manchester. Barcellona, Manchester, Real Madrid, Barcellona, Manchester nell'ordine. Sono anche però i tre club che producono più fatturato, che producono più denaro. No? Sono tre club. Ecco, allora bisogna arrivare, secondo me, al di là di un sacco di aria fritta, bisogna arrivare ad un altro sistema di gestire il calcio. Un sistema che è profondamente diverso dal nostro. Io sono d'accordo sul fatto che, insomma, il mecenate che ci mette le palanche, il paperone di turno, l'avventuriero, insomma, sono figure che non riescono più ad esistere, non riescono più a stare in piedi, no, nel mondo dello sport. Bisogna arrivare ad una gestione molto differente di tutto il sistema, da cui sistema molto differente da cui siamo enormemente lontani, no? Non è così? Sì, d'accordo, infatti, però non riesco a capire come si possa portare tutto il sistema a far trasformare una società sportiva come lo sono state, come sì, sono verso indicate a livello europeo. Non si può fare dall'oggi al domani. Il problema vero è che non viene fatto nemmeno il primo passo. Lo sta facendo forse la Juventus, perché io credo che, poi su questo possiamo aprire un dibattito infinito, che lo stadio di proprietà non sia l'unica soluzione del problema, però sia un passaggio decisivo. E sia un passo da fare per arrivare ad una gestione diversa e più moderna del calcio, perché è impensabile che il Milan non compri più nessuno, che l'Inter non compri più nessuno in omaggio al fair play finanziario. L'Inter, ad esempio, comprerà, e ne sono quasi certo, Sanchez pagandolo moltissimi soldi. Il Milan si rinforzerà il Barcellona, si rinforzerà il Real Madrid. Filippo Meranici, che tra poco parla, mi insegna che Real Madrid e Florentino Perez, Real Madrid che viaggia su un baratro di 800 milioni di euro di debiti, se non ricordo male, però ha crediti da parte delle banche. Perché? Perché con il sistema di gestione del club si producono quattrini e si pagano gli interessi. Detto in soldoni da uno che di economia e di finanza ci capisce nulla, mi sembra aver capito che è così, no? Mentre è chiaro che in Italia deve arrivare Moratti, che alla fine stacca l'assegno e ripiana, arriva Berlusconi che stacca l'assegno da 70 milioni di deficit e ripiana. È un sistema diverso di gestire il calcio, che è molto démodé. Facciamo così, sentiamo una cosa. Perché? Io non intendo perché. Non so se è da pubblicità da UNICEF. Não sei se é o poder do senhor Villar em UEFA. Não sei se são muito simpáticos. Não sei. Não entendo. Por quê? Eu não entendo por quê. Me pare meraviglioso. Por quê? Cosa dici, Filippo Maria Ricci? La cosa migliore era però il coro dei tifosi del Barça, il perché che gli cantavano martedì sera al Camp Nou. L'ho trovato geniale, decisamente ironico. Sì, intanto questo rap costa 4 giornate di squalifica più una con la condizionale, come nei migliori processi italiani. E il Barcellona si avvia a vincere il titolo e Mourinho sarà il grande sconfitto della stagione. Molti sono felici, io non particolarmente. No, io diciamo che la mia stagione con Mourinho cambia in quella conferenza stampa lì. Perché lì secondo me lui sbaglia nei termini, nelle parole, ma anche nel contenuto, perché secondo me lui aveva una grande occasione di difendere l'arbitro e di attaccare il teatro del Barça, che è innegabile, perché voglio dire, adesso che l'abbia toccato meno, che Pepe sia un criminale, però poi Alves si rotola sul prato, esce in barella e poi torna tranquillamente corricchiando. Allora, se sei da lui un uomo dialetticamente preparato e con grande ironia, io avrei detto no, l'arbitro ha fatto benissimo, perché io pensavo che Alves fosse morto, cosa che aveva fatto anche già Pedro nel primo tempo, cosa che aveva fatto Busquets l'anno scorso con Motta, no? Sì. Con la foto di Munch, no, poi sai Filippo, io adesso dico una cosa impopolare, al di là di tutto, anche l'ambiente Barcellona e la gente del Camp Nou non è che sia al massimo della sportività. No, appunto, perché lui deve attaccare quello, però non con l'arbitro. Uh-huh. Cioè lì, secondo me, se non ha sbagliato obiettivo, ha sbagliato obiettivo in maniera grossolana. E lì, questo è sorprendente. Mi ha deluso in quel senso, e sai per me cosa l'ha portato a questo? Quella grande reazione, la prima vera reazione di Guardiola in conferenza stampa prima, perché ormai sappiamo bene che queste partite tra Barcellona e Real Madrid si giocano anche molto in sala stampa, no? Allora, l'anno scorso lui va a Barcellona e fa tutta quella grande cosa del sogno e dell'ossessione, no? Uh-huh. E vince la sua battaglia e poi l'Inter passa e va in finale. Quest'anno lui parte all'attacco, però Guardiola lo infila in contropiede in sala stampa, quando finalmente risponde, e gli dice: José, qual è la tua telecamera, parlo con te, e via dicendo. E poi infatti, guarda caso, la partita, la sera dopo, lui fa questa tirata che è molto plateale, passa la storia, però non è precisa, non è puntuale. E quindi, invece, un punto di appoggio per Mourinho è il fatto che sicuramente il Barcellona non è tra le squadre più sportive in certi comportamenti. Sì, sì. Questo è il punto. Anche l'altra sera, no, per tornare sull'ambiente del Barça, anche l'altra sera quegli olè a metà partita, all'inizio del secondo tempo, di molto irridenti nei confronti del Real Madrid. Stiamo parlando nel tifo ci può stare tutto, però basta poi non dire noi. Lì hanno cambiato, perché di solito dicevano: no, questo portoghese è un non lo cantavano più, gli hanno cantato il perché e poi gli cantavano: questo è il calcio, Mourinho, questo è il calcio. Quindi secondo me i cori sono andati bene. Benissimo, benissimo. Sugli olè, ci sta, loro sono i re del tiki-taka. Perché anche l'anno scorso, quando c'era la storia della remontada sull'Inter, l'Inter ha trovato un ambientino mica da poco, comunque. No, ma su questo sbagliano. Però il perché di Mourinho, alla fine è stato controproducente, perché poi si sono infilati in un tunnel dal quale non vogliono uscire, no? Continuano a dire: adesso Mourinho non parlerà più, probabilmente verrà sempre in conferenza stampa Caranca, dicendo sì, le immagini ci sono. Quindi hai finito di lavorare tu? Ma poi alla fine si lavora lo stesso, ma tanto adesso la Liga finisce, quindi si spera. Ascolta, volevo chiederti ancora una cosa, in 30 secondi. Leonardo l'altro giorno ha detto che i grandi allenatori non vogliono tornare in Italia, che sono all'estero, non solo quelli stranieri, ma anche quelli italiani come Ancelotti. Mi pare però che i giocatori un pensiero ce lo facciano, la storia dei messaggini, Kakà ha dato un messaggino, sia i campioni dell'Italia, siamo noi a Galliani, no? C'è voglia di ritorno. Vabbè, però non puoi generalizzare, Kakà è una situazione molto particolare, qui è in grave difficoltà, secondo me è stato bruciato definitivamente dalla notte del Camp Nou, no? Dove lui parte titolare, fa una partita pessima, e è chiaro che vuole tornare, adesso capirai, il Milan sembra anche aver ripreso le forze, magari il prossimo anno in Champions si riesce a fare qualcosa, se lui torna spera di prendersi parecchie rivincite, e gli altri non lo so, per me Guardiola è uno che invece in Italia ci vuol venire, per esempio, tanto per dirne una. Anche secondo magari me. Non subito, magari non subito, però ci viene. E Ancelotti penso che volente o nolente mi sa che ci tornerà, perché la sua esperienza non ci sono molte altre soluzioni, svolge al tempo, o viene qua al posto di Mourinho, ma ancora questo domino delle panchine non mi sembra che possa partire, perché io vedo Non sembra pronto per maturare. Grazie Filippo, ti ringrazio. Intanto vi do la notizia a proposito di Ancelotti: il Chelsea accorcia le distanze sullo United, 68esimo segna Frankie Lampard, è sempre 2-1 però per i Red Devils. Traffico. Strade in diretta. Sono rallentamenti e code verso tutte le grandi città, proseguono i rientri al termine del weekend. Lunghe le code verso Milano sulla A4 Torino-Milano. Quelle per 6 km tra Greggio e Novara-Ovest si sono accumulate dietro un mezzo in panne. Tra Rho e il raccordo per Viale Certosa in entrata a Milano le code hanno raggiunto i 5 km. Sul tratto Milano-Brescia della A4 i rallentamenti verso il capoluogo lombardo tra Palazzolo e Seriate sono per un incidente. In entrata a Roma, particolare difficoltà sulla diramazione Roma-Sud. È interrotta la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo tra Soriano e Vitorchiano. Il servizio è garantito da autobus sostitutivi. Nella notte tra sabato e domenica, la notte scorsa, è deragliato un convoglio. Ci potrebbero volere 4 o 5 giorni per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. In un mercato fortemente competitivo sono le persone a fare la differenza. Randstad, agenzia per il lavoro internazionale che si occupa di ricerca, selezione, formazione e somministrazione di risorse umane, ha i numeri giusti per diventare il partner nella ricerca del personale. Randstad, presente in 43 paesi con oltre 4.000 filiali e 27.000 dipendenti, è la seconda agenzia di servizi Human Resource al mondo. Affidabile e professionale, attraverso l'applicazione di un modello operativo rigoroso, Randstad dà forma al mondo del lavoro agevolando l'incontro fra domanda e offerta per garantire l'eccellenza del servizio e la soddisfazione di chi offre e cerca lavoro. Maggiori informazioni su www.randstad.it. A tempo di sport. Dunque, vi do la notizia del Panathinaikos, campione d'Europa, sta facendo festa all'ennesimo titolo europeo del Pana e di quel genio assoluto di Obradovic. Adesso però torniamo al Giro d'Italia. Voci dal Giro. Le voci dal Giro sono quelle di Pieragusto Stagi e di tutti quelli che sono con lui. Ciao Pieragusto, di nuovo. Ciao Carlo, buona serata. Cosa ha detto Petacchi? Ma Petacchi, l'argomento è stato quello, diciamo, sulla presunta scorrettezza, che in realtà la giuria non ha neanche valutato. Mark Cavendish in realtà ha detto: io non ho nulla contro Petacchi, lui è un grandissimo campione, fortissimo, però in altra circostanza, nelle sue stesse circostanze, sarei stato squalificato. Petacchi ha risposto dicendo che forse dovrebbe più pensare alla maglia rosa che ha sulle spalle, che forse se fosse nei suoi panni sarebbe molto più felice di una maglia rosa sulle spalle che di una vittoria di tappe in più. Poi ha rimarcato il vecchio tormentone, da vecchio cuore bianconero, lui vive un po' questo dramma anche personale, no? Gli juventini dicono di aver vinto 29 scudetti, in realtà sono 27, lui ne ha vinto 167 vittorie, in realtà lui ne conta 180, perché per la famosa positività al giro del 2007, quella del Ventolin, dei puff puff del Ventolin, gli tolsero 5 tappe del Giro d'Italia più 8 altre vittorie, quindi in totale 13, di quelle 13 le conta, quindi lui dice: io sono a 180, quindi a 9 vittorie da Mario Cipollini, che, sì, che è il suo grande esempio, rivale, amico. Lui si è messo in testa che deve arrivare a fare una vittoria in più di Cipollini, in poche parole. Sì. Le possibilità ci sono ancora, anche perché Petacchi è stato molto bravo, pur tra mille traversie e tra qualche sfiga, comunque a mantenere una condizione, a non arrendersi mai, nonostante il Cavendish di turno, nonostante qualche problema con la giustizia, con le indagini, qualche vittoria tolta, però c'è sempre stato. Devi arrivare lì, sì. Devi arrivare lì, a 37 anni non è facile, ancora l'entusiasmo di un ragazzino, molto probabilmente, anzi lui l'ha fatto chiaramente capire, questo Giro d'Italia non lo finirà, anche perché è durissimo, però cercherà di disputare le tappe che sono adatte a lui, dopodiché penserà al Tour de France, dove ricordiamo l'anno scorso lui ha vinto la maglia verde, la classifica punti, una maglia che non arrivava in Italia, era arrivata solo negli anni 60 grazie a Franco Bitossi. Senti Carlo, a proposito di Franco Bitossi, io ho un ospite qua, sì, un padrone di casa, un mito, una leggenda, siamo a Parma, lui è di Parma, lui a pochi chilometri da qua nel 1968 ci ha regalato una delle gioie più belle che il ciclismo possa ricordare e raccontare, a Imola, campione del mondo, Vittorio Adorni. Scusa se è poco. No, è tanto. Non è poco, è tanto. Te lo passo. Grazie. Vittorio, buonasera. Pronto? Eccoci. Buonasera. Come stai? Bene. Bene, un po' stanco di tutte le organizzazioni della tappa, ma bene. E che credi? Però meglio di così credo non fosse sperabile, no? Con la vittoria di Petacchi. No, io puntavo, ho detto, perché in fondo come presidente, come stato organizzatore, io premio la maglia rosa perché pensavo fosse Cavendish, no? Sì. Ed è stata, però Petacchi non si sperava. Bellissimo. Grande regalo da grande velocista. Petacchi, sì, perché poi sai, una bellissima giornata, domenica di giornata delle biciclette in tutta Italia, Parma è una città che direi ciclabile, ho coinvolto tutta la città con direi da settimane, la gente ha vissuto questa tappa del Giro d'Italia in un modo veramente bello, tutti erano in giro, con i bambini, quindi una giornata molto speciale ma molto bella. Vittorio, questo giro chi lo vince? Domanda banale e scontata, però te la faccio lo stesso. Domanda banale, difficile, insomma, tutti puntano Contador, anch'io dico Contador perché in salita è quello che va più forte. Però non scarterei direi Nibali e Rodriguez, che in salita va abbastanza forte, questo scalatore, che potrebbe sparigliare le cose, perché non è che si pensi magari che vinca il Giro d'Italia, però un scalatore, poi ci sono anche altri scalatori che possono fare la differenza. Le salite sono molto dure, e quando le salite sono molto dure, gli stacchi non sono molto elevati. Sì, vero, quindi, vero. Credo che Nibali possa giocarsi il giro. Insomma. Sì, vero. L'altro giorno parlavamo con Angelo Zomagnan e diceva Contador lo conosco molto bene, mi ha confidato che il suo sogno è il triplete, cioè vincere in una sola stagione Giro, Tour e Vuelta di Spagna. Io pensavo e penso tuttora che non sia più possibile nel ciclismo del 2011 fare questo tipo di impresa. Contador potrebbe far crollare questa mia convinzione. Io credo che sia possibile, uno come lui lo può fare, insomma, si tratta solo di non tanto allenamento, preparazione, ma di mentalità, cioè, di testa, perché in fondo il corridore tante volte quando fa basta, ho corso al Giro d'Italia, al Giro di Francia, invece è stato constatato che il corridore che abbia un piccolo periodo di riposo può fare tutte le tre corse a tappe, quale può anche vincere. Il corridore, se fa la vita del corridore, veramente la vita è sicura, che ha delle qualità, può riuscirci. Quindi con la squadra. Quindi ha sbagliato basso a non venire? Ma sai, io gli obiettivi a uno solo non ci ho mai puntato tanto, perché così, poi alla fine mi è anche successo, perché in fondo ho vinto il Giro d'Italia, ho puntato il Tour per andare al Tour, mancava un corridore, abbiamo obbligato Gimondi a venire, obbligato, dai fai una settimana e poi vai a casa, dopo una settimana sono andato a casa io, quindi la differenza è che lui ha vinto il Tour e io sono andato a casa, cioè io credo che alla fine non si può dire faccio solo il giro e poi basta, no, cioè, si va a correre, certo. Succede anche che trovi la condizione, perché io mi ricordo, ho fatto il Giro di Spagna nel 68, che venivo da un periodo brutto perché ho fatto degli antibiotici, che avevo un'infezione alla mano, che ero caduto, quindi sono andato a fare il Giro di Spagna proprio per cominciare a allenarmi. Sì. Ed ero invece hai trovato la condizione, hai trovato la condizione. Ha vinto il mondo, io sono arrivato quinto, sono tornato a casa, ho fatto il Giro d'Italia, l'ha vinto Merckx, sì. Io sono arrivato secondo, non avevo ancora vinto niente, allora ho tenuto duro questa condizione e ho vinto il mondiale, quindi capisci che alla fine è questione di testa, di condizione, certo. di preparazione, ma di testa soprattutto. Certo, perché... certo. Anche se nel ciclismo di oggi è dura anche mantenere quella testa per una stagione intera su tre grandi giri. Io ringrazio la leggenda di Vittorio Adorni e Piero Augusto Staggi che ce l'ha portato. Ringrazio voi che ci avete seguiti, Giorgio Duca in redazione, Fabio Cantadoni in regia. Ma aggiorniamo soltanto la seduta, perché alle 20.30 torniamo qui a raccontarvi la vittoria del Panathinaikos nell'Eurolega dei canestri. A dopo. Voci dal giro.